Buonasera, spero di non disturbare il suo lavoro così importante per la pace. Amica, è Ra della Zanzara. Sono il Santo Padre. Qui alla Zanzara fanno sempre questi scherzi. No, sia guardi, Cruciani, non, sia non Parenzo. È uno scherzo questo. La Zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Sono in linea con i due simpatici stronzi, lì Cruciani e quell'altro lì, come cavolo si chiama, Paranza, Parenza. Che stasera veramente mi hai fatto incazzare, Cruce. Guarda, veramente ti porto in pancia, ma questa sera per me sei fuori di testa, cazzo, sei sbroccato. Caro Parenzo, ben pensante dei miei stivali, state rovinando la società, imbecille che non sei altro, mi fai finire il ragionamento? Sì, che Italia, caro Parenzo, c'è qualcuno alla Regione Liguria che dà un contratto di consulenza a 140.000 euro all'ex segretaria di Emilio Fede, come se la Regione Liguria, lo dico con grande affetto nei confronti di tutti, per carità, però lo dico, come se la Regione Liguria avesse bisogno di consulenti esterni. Le regioni non hanno bisogno di consulenti esterni che noi paghiamo. C'è già un sacco di gente, c'è già un sacco di personale, c'è già un sacco di persone, probabilmente molte anche da mandare via nel pubblico, no? Tra i dipendenti pubblici. Eppure continuiamo a dare contratti di consulenza. L'Italia, dove da quello che viene fuori dalle carte del processo Mafia Capitale, dalle confessioni, dalle deposizioni, chiamiamole così, di alcuni personaggi, addirittura i vigili urbani di Roma, sì. I vigili urbani di Roma avrebbero lavorato fuori, spero, dall'orario di servizio. Un capitano, abbiamo solo un capitano. Cioè, tu ti rendi conto, no? Cioè, con la scusa a Roma di non una si tocca presu- il re. Sì, d'accordo. Non dare questa notizia. Con a Roma la scusa, non si tocca il re. Con la scusa di un presunta, ma impossibile. Un presunto rapimento del figlio di Totti, la famiglia Totti, lo stesso Francesco Totti. Da Totti a Totti siamo passati. Eccola, sì. Perché fai confusione. No, Totti avrebbe pagato in nero, così dice il signor Odeven, avrebbe pagato in nero dei vigili urbani di Roma, sì. Per fare da scorta al figlio, cioè per fare da protezione al figlio, perché avevano quello paura. È il capitano da Roma, però. Ma ho capito, avevano paura di un rapimento. Ma ragazzi, ma quale rapimento? Ma di che parliamo? Il rapimento. Ma il capitano non si tocca, il capitano. Dai, su. A Roma sì, non si tocca. Io se non risento Carminati divento pazzo. Fatemi sentire Carminati, vi prego. Carminati integrale, Carminati. Oh, senti, ascolta a me. Io mi chiamo Massimo Carminati, segnatelo sto nome. Massimo Carminati, segnatelo. Capito? Segnatelo. Io sono quello che abita là. Se mi venite a fare l'impianto, bene, se no non me ne frega un cazzo di niente, capito? Massimo Carminati, segnatelo, così vai su internet e vedi chi sono io, capito? Segna il suo nome, ascolta a me, segna il suo nome, vai su internet e senti e sai chi cazzo sono io. Se non mi attaccate il telefono entro domani, a me non me ne frega un cazzo, vado su pazzo, vado a cercare a te. Non dico che è la stessa cosa, io so io e voi no, non siete un cazzo che del Marchese del Grillo. Però un po' in Italia funziona così, no? Cioè, in Italia un po' funziona così, cioè uno ha bisogno, no? Il figlio in pericolo di rapimento attiva tutta una serie di cose così e poi alla fine arrivano i vigili urbani pagati in nero per fare la scorta. Ma questo è quel che dice Odeven, certo, poi da confermare, ma non mi sembra che ci sono state molte smentite oggi, Faccio faccio sentire alcune voci che abbiamo ripescato sul web da varie agenzie eccetera eccetera di personaggi dal comizio di Salvini a Bologna. Salvini, Berlusconi, Meloni a Bologna. Molto belle queste frasi, molto amici miei, ascoltate, sentiamo. Che cos'è il gender? I gender sono quelli che vogliono introdurre nelle scuole, cioè il sesso maschile e femminile confuso, nelle scuole e anche negli asili. Ma chi l'ha detto? Sono froci, sono maledetti, sono dei diavoli, è la verità. Ci sono già, lo portano in Italia, nel mondo, e questo è il guaio. Ma non ce la faranno. Ma lei è etero o lesbica? Ma che schifo! C'è il simbolo della Vandea, siamo contro l'Islam. Fino all'ultimo cristiano, vuol dire. Così in generale contro l'Islam o contro l'Islam? No, in generale no, l'Islam, la religione è l'Islam. Noi sappiamo che non è una religione, punto. Chi gliel'ha detto? L'abbiamo studiato. Secondo me Benito Mussolini era l'unica persona che può cambiare veramente le cose. Negro, sei uscito dal buco del culo, sei uscito! Ma come sei nero, cazzo! Stamattina ho sentito, giustamente qualcuno mi scrive tra l'altro a proposito dei vigili e di Francesco Totti, ma se poi veramente ci sono pericoli seri, reali per la sicurezza di una persona, che sia Totti, che sia il prefetto, che sia quello, cioè la scorta della polizia normale, non è che paghi senza nero, non è che paghi nero i vigili urbani. Per questo ti dico che è un po' strana la cosa, capito? Ma sarà strana quello che racconto De Venne, che bisogno appunto ha di raccontare, per mi pare sì, ma che vantaggio ha a raccontare una minchiata del genere? Vai a saperlo tu. Ma è assolutamente credibile una cosa no, di questo tipo, dai. Ma no, invece è il contrario. Ma anche perché quelli là ti fanno un culo così, vigili pagati in nero, no? Cioè, già quello c'ha i suoi problemi, il signor De Venne, che vuoi mettere un carico da 90 dicendo pure stronzate nelle deposizioni. È abbastanza surreale come accusa, tu lo faresti. Tutto, cioè, a Roma tutto è possibile. No, però le tutto cose stupide non hanno logica. Ma perché, cioè, perché stupido? Uno a un certo perché punto si arriva uno famoso se pensa di ricevere delle minacce. Ma forse non hai capito. Allora, a un certo punto loro fanno delle verifiche. Questa cosa dicono che può essere vera, eccetera, eccetera. C'è di mezzo un capo ultra della Roma che è uscito dalla galera e che si rivolge a uno dicendo: mi hanno chiesto di rapire Totti per 50 mila. Ma uno si paga la scorta privata, spende meno che dai mazzette. Cioè, voglio dire, mi pare assurda. Guarda, come quando cosa uno c'ha i soldi, quando uno c'ha i soldi non guarda, ma, cioè non è così. Ma appunto per questo è una stupidaggine, cioè ma è antilogico. Una stupidaggine, non ho capito. Ma perché ti pare? No, io appena l'ho vista stamattina, mi ma è sembrata veramente è una cosa antilogica. È assolutamente guarda, credibile. Io penso esattamente il contrario, ma davvero non è antilogico. Ma non è, no, non ma perché non ha logica, no, cioè... ma senti l'avvocato di Carminati, poi, l'avvocato di Carminati con alle prese con Lucci alle Iene, senti. Signor Naso, l'avvocato di Carminati. Signor Naso, mi dica. Io non sono il signor Naso. L'avvocato Naso, scusi. Avvocato Naso è categorico. Perché dice che è un processetto questo? Perché io sono abituato a fare processi molto più seri. Soprattutto. Pensa che questo non è un processo serio, ma scusi, ho detto, ma ci sto io. Appunto, ci sta lei. Su di me. È un coglionazzo. Ma come un coglionazzo? Coglionazzo. Io? Sì. Ma dai, avvocato Naso, perché mi dici così? Perché c'hai la faccia da coglionazzo. Però, Naso però... Naso, ma perché però lo chiamava Naso? Dici sono avvocato Naso, a Naso, ma dai, certo, un ma genio. È Lucci, è un genio, un no, genio. Però devo dire la verità che l'avvocato Naso, che è l'avvocato di Carminati, non a caso, come dire, no, non cioè, a Naso, cioè, c'ha Naso Carminati, ma soprattutto soprattutto è l'avvocato di Carminati, per essere l'avvocato di Carminati non dico che devi essere all'altezza di Carminati a livello, ma, di io dico... avrei scelto un altro, sai, guarda, ma avrei fatto tutta un'altra scelta io, ma scusi Taormina, che dici? Ma avrei fatto con Carlo, certo, avrei ricusato chiunque, banda di criminali, di giudici, assassini criminali. Ma no, ma non si va avanti. Hanno messo in seria difficoltà una persona bravissima. Ma non è bravissimo Carminati. È rimasto pure cieco, vede, non ci vede neanche da un occhio. Ma un no, ma non è rimasto cieco. Ma non è vero, l'hanno sparato la polizia. No, ma che appunto, l'hai detto, criminale, ti chiameremo come testimone. La polizia ha sparato all'occhio. Vedi che tutto torna, ma è una cosa evidente. Ma evidente cosa? Cosa è ma gravissimo? Ma quale mafia capitale? Non esiste né la mafia né la capitale, hanno magnato tutto. No, avvocato, criminali. Guardi, vabbè. È stata la Franzoni a Roma comunque. Ma che c'entra la Franzoni a Roma? È stata la Franzoni, lo sappiamo. Ma che c'entra, dai? È stata lei con lo De Venne, hanno fatto tutto un macello comunque. abbiamo le prove. Allora, vi faccio sentire. Faremo domani una conferenza stampa alle 11. Ma lei non fa nessuna conferenza stampa, non è l'avvocato di Carminati. E anche Marino, un cretino, una roba incredibile. Abbiamo tutte le prove, abbiamo. Ma quali prove? Ma abbiamo le prove, abbiamo le prove. E il Sole 24 Ore, tra l'altro, sa molte più cose che ha insabbiato. Ma non è vero! E chiude. È molto grave quello che ha fatto questa emittente, molto grave, guarda. No, avvocato, scusi, che c'è? No, no, convocheremo domani una conferenza stampa alle 11 a Palazzo Senatorio. Vabbè, mostreremo tutti i dati, la libertà di Carminati. Ma quali dati? Persona molto per bene, un Nobel per la pace. Non è una persona per bene. Nobel per l'economia e per la pace, brava persona, guarda. Allora, vi faccio sentire questo deputato che è passato, diciamo, dal Popolo della Libertà, quando si chiamava Popolo della Libertà, poi con Alfano, successivamente con la Lega, un bel percorso, signora Salta Martini. E vabbè, infatti si chiama Salta. Salta Martini, Salta Partiti. Non è che sta ferma, non è che si chiama Ferma Martini, si chiama Salta. Salta Partiti, sì, appunto. Salta Partiti. Allora, signora Salta Partiti, non Salta Martini, parla della vicenda Mattielli. Della vicenda Mattielli, so che vi siete esercitati anche stamattina su Mattielli, lì all'aria che tira, poi manderemo tutto, manderemo tutto. Però sentite come lo chiama, forse abituata, come dire, ad altre cose, soprattutto a un certo tipo di marche, a un certo tipo di borse, soprattutto, no? E il tizio si chiama, come sapete, mito assoluto, purtroppo è morto, Hermes Mattielli. Sentite. Abbiamo aperto la manifestazione ieri ricordando un uomo che è stato condannato per legittima difesa, Hermes, che è morto purtroppo dopo aver subito un'aggressione violentissima dentro casa di cui è stato condannato. No, ma riascoltiamo un attimo, com'è che si chiama questo qua che si chiama Hermes, che poi non c'è, Hermes non si può chiamare Hermes, se tu c'hai in testa Hermes, le borse Hermes, lo chiami Hermes Mattielli. Quello era un poveraccio che non c'aveva la lira, è morto povero in canna, Hermes, senza un certo. Hermes Mattielli. Abbiamo aperto la manifestazione ieri ricordando un uomo che è stato condannato per legittima difesa, Hermes, che è morto purtroppo. Il traffico è il problema. Nuova Audi A4. Scopritela negli showroom Audi e su Audi.it. Vi presenta La Zanzara. Senti, ascolta me, io mi chiamo Massimo Carminati, segnatelo sto nome. Massimo Carminati, segnatelo, capito? Segnatelo. Io sono quello che abita là. Se mi venite a fare l'impianto, bene, se no non me ne frega un cazzo di niente, capito? Massimo Carminati, segnatelo, così vai su internet e vedi chi sono io, capito? Vabbè, ma io. Segnale sto nome, ascolta me, segnale sto nome, così vai su internet e senti e sai chi cazzo sono io. Se non mi attaccate al telefono entro domani, a me non me ne frega un cazzo, vado su spazio, poi venga a cercare te. Mi dispiace, ma io so io e voi non siete un cazzo. Ma diciamo che il Marchese del Grillo lo diceva con una con un'altra classe, diciamo, con un'altra classe, eh. Vabbè ragazzi, Silvana da Trento, apriamo, dai, apriamo le cataratte. 800 24 00 24, vai Silvana. Buonasera, dimmi. A tutti e due. Vai. Complimenti per non me ne frega niente, vai. A me sì, mi lasciate parlare. Sì, però no, basta che non fai complimenti che mi annoiano, dai. No, mi piace la vostra trasmissione. Vabbè, abbiamo capito, è bene. Allegra, con la preghiera di non fare troppo trucidi ogni tanto. Troppi trucidi? Ma no, non siamo trucidi. No. Trucido, io non sono trucido. No, ho detto trucido. Che siete, ho detto che li fate ogni tanto. Ah, succede, ogni tanto come nella vita, amica mia. La vita è fatta così. È fatta di... bene, si può anche migliorare. No, è fatta così, nel senso di momenti no, in cui di alto e basso, di momenti in cui uno dice delle cose così col, no? Vabbè, dai, su Silvana, che vuoi dire? Va bene. Allora, io volevo esprimere la mia opinione, la tua opinione, sì. Sul veterinario di Torino che sì. È andato a ammazzare un leone sì. In Africa, sì, proprio allora? Perché i leoni in Africa pullulano, non si sa più dove metterli, è andato a ammazzarlo. Sì. Allora, come dicevate voi, è una cosa perfettamente legale, però c'è un limite a tutto. Come se un cardinale cattolico per il suo compleanno si sì. Comprasse una bella piscina a jacuzzi e poi invitasse i suoi amici e facesse anche pagasse anche uno spogliarello di modelle. Sì, non è sbagliato. Cosa che però accade nella realtà, non è accaduto molte volte. Ma non è il regno della fantasia. Ma non è della fantasia per niente, i cardinali li combinano di tutti i colori. Comunque, vabbè. Io personalmente non ho le prove, per cui faccio una cosa ipotetica. Sarebbe perfettamente legale e non opportuno, però. Vabbè, lei sta dicendo che per un veterinario non è opportuno, giusto, non è opportuno andare a caccia. Benissimo, io penso, come ho detto più volte ieri, Silvano, ho capito benissimo. Come ho detto più volte ieri, io lo ribadisco, i cacciatori sono i più grandi amanti degli animali, sono i più grandi paladini degli animali e soprattutto della natura. Gabriele, provincia di Macerata, vai. Buonasera. Dimmi. Allora, volevo con Parenzo, diciamo, fare una critica a Parenzo, una critica, sì, un consiglio soprattutto. Eccoci, soprattutto pronti. Un consiglio. Sì, allora, volentieri. L'ho visto ieri sugli studi di La 7 e oggi, ieri, no? Sì. Allora, volevo dire, sarebbe il caso di quando si fa dare una sedia un po' più alta, altrimenti viene poco considerato. Ma in che senso? Che senso? Con un cuscino, lei dice, sotto. È un cuscino, o qualcosa. Un seggiolone. E poi Parenzo se ne usciva ogni tanto col discorso delle pistole. Sì, sì, ma... ogni tanto. Allora, sì, certo. Io non le uso le pistole. Non prenderlo per il culo perché c'è l'accento di Macerata, però. No, scusami. Io ho detto del seggiolone. Dai, allora, Gabriele... No, io non le uso le pistole. Io ho usato le mani. Le mani? Quando le usate le mani? Quando con un macedone, che era la terza volta che mi entrava in casa per fare un furto. E che gli hai fatto al macedone? L'ho buttato dal primo piano. Cioè l'hai buttato giù dal primo piano. E sto signore macedone che fine ha fatto? Dopo 15 giorni è rimasto lì sull'ospedale lungo. Cioè è rimasto dopo 15 giorni, subito è rimasto in ospedale. Beh, per 15 giorni? No, è andato in ospedale, però non è uscito più con le sue gambe. No, con che è uscito? Con la sedia a rotelle, come è uscito? Niente, è rimasto e l'ha messo dentro una cassa. Ah, è morto? Sì. Cioè tu hai ammazzato, ma questo è interessante. No, però. Io non ho ammazzato. No. Vabbè, ma tu hai ammazzato, oggettivamente, mica sto dicendo che hai fatto male, sto dicendo che hai fatto benissimo. Scusa, però, un consiglio di un carabiniere, perché dopo le due rapine ho chiesto consiglio di un carabiniere. Però non ho capito, scusi. Aspetta, fammi capire. Prima deve raccontare però, scusa. Cioè lei ha ucciso con le mani una persona, giusto? No, l'ha buttata dal primo piano, l'ha buttata dal primo piano. L'ha buttato dal primo piano. L'ha buttato dal primo piano. E non è stato poi era ancora vivo. Non ho ucciso. Ah, certo. No, no, certo. Beh, se uno. Vabbè, adesso sai però com'è. Non ci pigliamo se per il culo. Se uno ti butta dal primo piano, ascolti, è verosimile che uno muoia. Aspetta. Un carabiniere? Dopo le prime due rapine, sì, perché sto in campagna, un po' isolato, certo. Mi ha detto: se devi fare qualcosa, fallo fuori casa. Ah. Ok? In che senso, allora, scusa, fuori casa? Perché cioè, uccidilo fuori erano casa. Erano in due di notte. Sì. Li ho fatti entrare, avevo predisposto un po' tutto, io l'ho visti da una grande casa, trappola, sì. Certo. Esatto, ha fatto benissimo, ha fatto. Poi uno è riuscito a scapparmi perché erano in due, vabbè, questo è l'altro. Se erano armati erano cazzi, Gabriele. Vabbè, io però ho rischiato. Hai rischiato, uno è riuscito a scappare, l'altro? E l'altro è rimasto a casa perché io ero uscito a correre dietro, l'altro io l'avevo steso a terra, però si è rialzato. Nel frattempo torno su, c'era mia moglie e mio figlio che urlava. L'ho preso, l'ho portato nel balcone e gli ho dato una spinta. E l'hai buttato giù. Ho fatto qualcosa di male? No, benissimo tu hai fatto, benissimo. Questo racconto benissimo. Di questo Rambo, questo pseudo Rambo marchigiano. Aspetta. Ho detto, E che è successo? Dopo quello è andato in ospedale? Dopo 15 giorni? Non è più uscito vivo. Ma l'ho detto prima. E sei stato contento tu, naturalmente. Ma perlomeno quelli non vengono più a rompere le palle. Cioè, gli hai portato un fiore al cimitero oppure no? No, ma poi non ci sono venuti più nessuno perché poi si è sparsa la voce. No, lì c'è Gabriele da Macerata, c'è Gabriele che spinge la gente giù dal balcone. Certo che ci credo, perché non dovrei crederci? Io credo a tutto. È successo perché 4 anni è evidente fa. Che questo è un mitomane. Ma cioè, che mitomane? Quale mitomane? Scusami, il mitomane marchigiano Parenzo, che chiama. Parenzo. Dimmi, mitomane, dimmi. Allora, ascoltami, dove stai? Dimmi, mitomane. Tu sei tanto accogliente con dei delinquenti. No, non sono accogliente contro nessuno, non nessuno. Il mitomane ti descrive una situazione in cui entrano in due in casa, sì, con moglie e figlia, se non ho capito male. Dammi un consiglio. Uno scappa a un certo punto. Uno scappa, lo butta dal balcone, ritorna in casa, trova l'altro, moglie e figli terrorizzati, e il nostro Rambo ne avrebbe ucciso uno scaraventandolo dal balcone mentre quell'altro è scappato. Perché qual è il problema? Non ho capito. Amico non di ci credi. Veramente. Non ci credi. Gabriele, vabbè, se l'ha fatto è un pazzo. Che vuoi dire a Parenzo, Gabriele? No, che voglio dire? Che un consiglio da lui se la prossima volta mi vengono a trovare, che devo fare? Fai un caffè. Ma fai un caffè. Lei è stato anche in prepara un caffè, no? Gabriele. No, se no cerco di farlo, che ne so. Non è stato incriminato. Fagli stuprare tua moglie. Però non ha subito processi lei, però. No, per questa cosa. Io ho detto che quello, se quando ero scappato, è caduto dalla terrazza. È caduto da solo. Hai raccontato una cazzata, stai confessando adesso che hai raccontato una minchiata. E la magistratura ha creduto alla minchiata che tu hai detto. C'erano delle prove che io ho buttato giù quella persona. Non lo so, lo sta dicendo adesso. Confessione di un omicidio in diretta, dai. È una cazzata, dai. È evidentemente no, non è una cazzata. Che cazzata? È una chiara cazzata, allora, che questo Rambo si è inventato, ma poco male. Ma no, no, ma quale cazzata? Per soddisfare il suo ego. Ti ritrovo i giornali di quell'epoca. Va bene, benissimo, me li mandi via mail, grazie. E così avvertiamo la magistratura di riaprire il caso. Comunque ha fatto benissimo, Gabriele. Ha fatto benissimo. Così riapriamo il caso. Mi mandi via. Ma cosa ci trovi di strano nella reazione di Gabriele che ha buttato quello dalla finestra? Ogni tanto tiri fuori il discorso delle pistole. Perché? Ti dà fastidio le pistole? Ma no, Rambo, dai, non ti preoccupare, Rambo marchigiano, dai. Bruce Willis, dai, Harsey. Fermi, dai. Tutti, fermi. 00 minchia. Oh, senti, ascolta a me. Io mi chiamo Massimo Carminati, sentitelo sto nome. Mi dispiace, ma io so io. E voi non siete un cazzo. Tutti i pomeriggi dalle 16.30 alle 17 su Radio 24 Oscar Giannino vi aspetta con la versione di Oscar. La versione di Oscar in realtà non è il punto di vista di chi vi parla, è soprattutto la serie delle storie strane, singolari, che contraddistinguono la nostra vita di cittadini di fronte a uno Stato che molto spesso ci tratta da sudditi, la storia di come vanno le cose nell'economia e nella finanza italiana, la storia delle tante parti d'Italia in cui questa crisi per anni si faticherà in realtà a farla tornare a dei livelli di reddito, prodotto, investimento necessari davvero a restituirci a quello che avevamo nel 2008. Tutti i pomeriggi, da lunedì al venerdì alle 16.30 alle 17 su Radio 24, la versione di Oscar. Non mancate! Il segnale orario vi è offerto da... Scegli Pantera col TH, scegli l'IRP di Infracom Italia per competere nel mondo. Nuova Audi A4, scopritela negli showroom Audi e su Audi.it. Vi presenta... La Zanzara. Un sacco di tempo che non la vedo, caro Parenzo, un sacco di tempo, no, che non vedo te, è un sacco di tempo che non vedo un personaggio meraviglioso, una persona... Me li vedrai prestissimo, perché saremo insieme il 19 di novembre all'Auditorium con tutti i migranti, gli amici rom, che poi dormiranno, ringraziamo anzi l'azienda Sole 24 Ore, non ospitiamo nessuno, che darà ostello. Ma a non è vero, tutti i profughi che ne faranno richiesta. Ma tu stai cercando di portare qui, laddove non arriva la politica e la Lega, là arriva la Zanzara. Arriva Napoletano, bravo, esatto, benemerita iniziativa, molto bene. Ma non è vero, anzi no, porta qualche amico tuo rom di Milano, porta qualche tuo amico rom di Milano a suonare, bellissimo. No, lo porto un senz'altro. Concertino rom, mi organizzo da subito un concertino rom. Vabbè, stupendo. Allora ragazzi, ma guarda, non... che lo faccio, eh? Sì, fallo, non vedo, no, ma non è che insulti, cominci a dire occhio al portafoglio, queste cazzate qua. Beh, insomma, perché ti conosco, bisogna sempre stare un po' attenti. Questi arrivano e diranno mangiare Cruciani, mangiare e suonare musica zigana di Romania. E tu non cominciare subito a... Allora sì, però vuoi stare zitto un attimo. Stasera che sei tarantolato, che c'è? Alle volte mi dici non parli, poi no, parli troppo. Poi stai zitto. Ma vaffanculo, allora, cosa deve fare uno? No, non parli, sei muto. Di parlare. Non fai niente, non parli, stai zitto. Mi è tornata la voce, ho combattuto la bronchite, ho sconfitto questa lunga malattia, sono tornato. Come hai sconfitto la sifide? Sconfitto la bronchite. È stata sconfitta, esatto, la sifide. Sconfitto la bronchite. Stai zitto, non parli, non tossire, non pisciare, non fare. No, oppure, ma perché non parli, non ci sei, non fai, cosa fai, fatti i cazzi tuoi. Poi uno parla e dice, no, ma perché parli? Ma guarda che è incredibile. Aspetta. Ma guarda, è raccontata così, è incredibile. Questo non c'è mai una misura, non c'è però mai una... Aspetta un attimo, allora, avanti. Viene da un sacco di tempo a trovarci la signora Sabina Began, da quando c'ha i suoi guai giudiziari. Piange, cosa vuoi? Personaggio meraviglioso, stupendo. Io penso veramente l'unica per cui ho avuto una vera tentazione in diretta di mettergli una mano addosso è stata la signora Sabina Began. La signora Sabina Began, personaggio veramente molto attraente. Non dico niente di cose che sono. No, sai niente, la signora Began non puoi sapere nulla. Non dire cazzate adesso, la signora Began non l'ho mai toccata con un dito. No, purtroppo, certo, dico, no, purtroppo. Ma in realtà non ho mai, perché non ho mai avuto. Non volevo mettermi nei guai. Ma lasciamo per la signora Began. E si è messa a piangere. Ha preferito, ricordo, lo ricordo a tutti, ha preferito Berlusconi a Clooney. Cioè lei è quella che a un certo punto ha preferito, oppure se l'è fatti tutte e due, non lo so, probabilmente se l'è fatti tutte e due, comunque ha raccontato questa storia per cui ha preferito Berlusconi a Clooney. L'altro giorno a Bari, nel processo, assurdo processo escort messo in piedi per, con, sulla prostituzione, una cosa patetica e ridicola, la signora Began dice che ha amato Berlusconi e avrebbe fatto qualsiasi cosa per Berlusconi. Io questo uomo ho amato tanto e gli ho fatto qualsiasi cosa per compiacere. E non è bello questa cosa quando io leggo la prostituzione. E io penso che non è bello quando uno ama una persona e si dedica la vita e fa qualsiasi cosa per lui. Lui è un uomo meraviglioso, un uomo fantastico, un uomo, mio padre, all'inizio era mio fidanzato, ma poi non lo era più, insomma era, non era, però era un fidanzato platonico. Io ho vissuto per lui e ho fatto delle cene, non solo questa cena, ho fatto tante cene per lui. Che storia drammatica, che storia d'amore drammatica, storia anche di denaro, diciamo la verità, storia di denaro. C'è molto denaro in queste storie. Quando c'è il denaro è tutto distorto, amici miei. Io non è che non credo ai pianti, alle lacrime, all'amore, no. Però quando c'è la ricchezza da una parte, la ricchezza enorme da una parte da poter distribuire, da poter distribuire così, io ecco, non ci credo tantissimo. Però, oh, che ti devo dire, se sarà pure innamorata di Berlusconi. Quanto cinismo. Ma che quanto cinismo, dai, su. Quello è amore vero. Dai, dai, anche tu. Però attenzione, abbiamo scoperto una cosa. Che Massimo Carminati dalla galera chiama ancora, non ha ancora il telefono rotto, ti giuro. Ha ancora il telefono rotto a casa e chiama ancora vari operatori, negozi, eccetera, per farsi aggiustare il telefono. Ti giuro. Abbiamo le prove. Ma non è possibile. Senti, dai, abbiamo cazzo, le prove. Non... Senti. Io mi chiamo Massimo Carminati, sentite lo sto nome. Pronto? Io mi chiamo Massimo Carminati, segnatelo sto nome. Ma che cazzo sta dietro? Massimo Carminati, segnatelo. Capito? Segnatelo. E sti cazzi? Segnatelo sto nome, ascolta a me. Tu mi fai su internet e senti e sai chi cazzo sono io. E che cazzo sei tu? Io sono quello che abita là. E sti cazzi? Se mi venite a fare l'impianto bene, se no non me ne frega un cazzo di niente, capito? E sti cazzi? Se non mi attaccate il telefono entro domani, a me non me ne frega un cazzo, vado su spazio. Poi te che cerca te. Vai dove cazzo ti pari. Ma scusa, hai visto? Hai visto ancora che succede? No, cioè, ma è incredibile. Ancora usa questi metodi, signor Carminati. Io abito là. Ma no, ma è pazzesco. Ma poi la gente, hai visto, ha capito un po' l'antifona e risponde per le rime. Cioè, non si fa mettere i piedi in testa al signor Carminati, eh? No, cioè, gli operatori di telefonia, i signori riparatori di telefoni, eccetera. Ma ci arriva del materiale incredibile. Senti ancora. Pronto? Io mi chiamo Massimo Carminati, segnatelo sto nome. Pronto? Massimo Carminati, segnatelo. Capito? Segnatelo. Quando me lo sono segnato? Se mi venite a fare l'impianto bene, se no non me ne frega un cazzo di niente, capito? Ma con chi sto a parlare, scusa? Io sono quello che abita là. Quello? Io sono quello che abita là. Ma con chi vuoi parlare, scusi? Io manco te conosco. Segnatelo sto nome, ascolta a me, così fai su internet e sai chi cazzo sono io. No, ma io non lo so e non lo voglio sapere, vattene a fanculo. Se non mi attaccate il telefono entro domani, a me non mi frega un cazzo, vado su spazio. Ma che cerca te? Oh, ma tu stai a cercare quello là di telefono, io faccio idraulio. Che cazzo c'entro? Io sono quello che abita là. Oh, vaffanculo, va. Signor idraulico, si era sbagliato con l'idraulico. Guarda che ti torna la tosse. Oh, ti torna la tosse. Questo fa ridere veramente. L'idraulico, amico. Oddio, mio, la signora Began giorni fa, oh, chi è che messaggio? Oh, chi è? A Began, no, signora Began ti ha chiamato, no, vabbè, Giovanni da Vicenza, no, io adoro la signora Began, l'adoro, perché non torno a parlare qui, cazzo, dai, Giovanni. C'è un corvo che mi scrive, eh. Vai, Giovanni, vai, Giovanni. Verificare chi è questo che mi ha scritto. Dimmi, Giovanni, dimmi. Sì, Luciani, io ho appena sentito quell'intervento di quell'individuo, di quel signore che praticamente in diretta ha dichiarato di essere stata una persona. Sì. Cioè, sono rimasto scioccato. Io penso che questa persona vada in ogni caso segnalata alle forze dell'ordine. Parenzo vorrebbe già segnalare alle forze dell'ordine quel signore là, sì, di prima. Quello di... Sì, non ci crede, detto, però sai. Lui, Parenzo, dici segnaliamo, no, lo stesso. Ma... Vuoi segnalare? Senza dubbio. Senza dubbio. Io, sì, tu sì, segnaleresti, sì, pure, sì. Secondo me, tu segnaleresti, sì, pure la tua fidanzata, tua madre. Sì, sì, segnaliamo alle forze dell'ordine. Se così. Segnaliamo. Comunque, segnaliamo. Per sicurezza, segnaliamo alle forze dell'ordine. Certo. Segnali tutto. Per sicurezza. Mia madre è uscita di casa, un'aria un po' sospetta, segnaliamo la polizia sotto casa. La spesa, segnala tutto, segnala intanto. Lasciami parlare un secondo, lui l'ha dichiarato. Ah, la mia corvina preferita che mi ha scritto. Vabbè, scusa, ma vuoi fare parlare l'ascoltatore? No, ma sta dicendo chi è questa. Ma sta dicendo una cosa seria, dai, forza. Sì. Ha dichiarato una radio pubblica, un servizio pubblico, ha fatto una dichiarazione fatto una persona, sì, è seguita da migliaia di persone. Io penso che centinaia di migliaia, sì, anche quello di avvisare le forze dell'ordine, dare il numero di telefono che voi avete. Io non se le forze dell'ordine già oggi ci hanno chiesto un audio di un tizio animalista, non so, le forze dell'ordine, che per carità fanno, sì, tutti, no, cioè, hanno richiesto in via ufficiale gli audio, che peraltro sono sul sito, sì, ma comunque lasciamo perdere. Hanno chiesto degli audio di un animalista, non so, una cosa di maltrattamento di animali, ma va benissimo. Speriamo che non ci querelino, forse ci vuole querelare qualche associazione animalista, non sarà una cosa nuova. Normale. Però Giovanni, scusa un attimo, tu vuoi denunciare questo tizio che ha detto di avere ucciso un uomo e di avere raccontato alla polizia e ai carabinieri sostanzialmente una stronzata, che questo era caduto dalla... Una stronzata, i carabinieri... Ha fatto benissimo questo qua, benissimo, non bene, benissimo. Questa è la tua opinione, la mia è completamente diversa dalla tua. Sì. Io ripeto, la radio è un servizio pubblico, ha dichiarato pubblicamente di aver commesso un omicidio. Sì, no, ma ha ragione. Ha ragione, non mi sembra, perché adesso siamo una persona per un melone, per un mezzo di cicoria, ok, aveva tutto il tempo di chiamare i carabinieri. Ma io non lo so adesso. No, ma quello è un rambo, dai, ma è un invasato, ragazzi, un matto. Qua l'ha detto alla radio, non è che sì, che, sì, che, ma infatti, certo, ma infatti va segnalato immediatamente. Ma non va segnalato per niente. La procura competente. Ma nessuno va segnalato. Sì, come no? Ma se uno ti telefona, adesso scherzi, ma uno chiama, dici di aver buttato giù dal balcone uno, di averlo ucciso, ma che stai scherzando, non segnali niente? Ma segnalato tutto immediatamente, notizia di reato, forse si apre un fascicolo, piccola inchiesta. Ma voi siete veramente dei questurini. Fermo. Ma io non lo so. C'è un programma, guardi, radiofonico, com'è che si chiama? La Zanzara, quello da chiudere subito, guardi, da chiudere. State ascoltando un programma offerto da Huawei, make it possible. La Zanzara. Decesso a te, io già te vedo che torni a casa e ti fai la seghetta, ma io lo vedo. Bene, andiamo sempre con l'800 24 00 24. Gianni D'Ascoli, vai Gianni. Pronto? Dimmi Gianni. Buonasera, meno male, qualcuno cazzo che parla senza dire sulla lingua. Era un mese che volevo cercare di parlare con te. Dimmi Gianni, che amico. Cioè, allora, io sono 4 anni, dopo sono 16 anni che abito fuori di casa dove capita. Non ho capito, aspetta, stai calmo, che sennò non sento niente. Allora, abiti dove abiti tu? Sono 16 anni che ho abitato fuori casa nei posti più assurdi, dove capitava. Cioè, sei sostanzialmente una specie di barbone? Più o meno, sì, essendo italiano, essendo della città, essendo italiano. Cioè, non ho capito, adesso, dove vivi adesso? Adesso. 4 anni fa ho avuto un incidente, il comune mi ha dato una casa provvisoria, senza luce e senza acqua. E poi? Cioè, io in pratica non mi posso, almeno di fronte alla porta di casa mia, cioè, una famiglia di rumeni, sì, gli stranieri, hanno luce, acqua, gas, affitto, e non pagano una lira. Ma adesso non lo so, una famiglia di romeni non paga una lira e tu invece devi pagare. No, io non è che devo pagare, io non ce l'ho proprio. Vabbè, adesso non me l'hanno proprio data. E perché non te l'hanno data? Non lo so, io ancora sono 5 mesi che aspetto e non c'è, cioè, mi hanno dato una sistemazione, non si sa, provvisoria. Cioè, io prendo 280 euro al mese, sì, di pensione di invalidità, sì, con cui ci devo campare un mese. Cioè, quindi mi hanno dato questa sistemazione. E perché sei incazzato? Diciamo, oltre per il fatto che la sistemazione è una sistemazione così. Tutti mi prendono gli stranieri, tutti qua, cioè, e questi hanno sotto casa, hanno un BMW che costa 40.000 euro, non paga un cazzo. Renzo, rispondi tu a questo. No, ma che cosa vuoi? Cioè, è classico caso che va benissimo di una persona che sente che altre persone hanno più diritti di lui. Questo è il punto. E che devi rispondere? Lo dirà al suo sindaco, all'assessore agli affari sociali. Ma non è colpa dei rumeni. Io che ne so, rispondi tu di che? Come faccio a sapere il caso dei rumeni? Se è vero, se non è vero. Questo. Perché l'unico sei dato così di fatto incazzato, è che questo Gianni, poveretto, perché gli stranieri perché hanno tutto e tu no. Perché vive. Poverino, ha ragione. Gli stranieri? Questi si sono attaccati abusivamente e non pagano un cazzo. Cioè, protesta e dovrebbe intervenire la forza pubblica. Vabbè, amico mio, cosa possiamo fare per te noi? No, niente. Però io volevo dire che tutti li fanno gli stranieri. Poi dopo si lamentano che uno magari è razzista o ce l'ha contro gli stranieri. Oppure che vengono a rubarti dentro casa, cioè, se vengono a rubarmi dentro casa. Ma tu, Gianni, tu adesso dalle Marche con furore e anche con tristezza, per chi voteresti adesso? Per la signora Meloni, per il signor Salvini, per chi voteresti? Io momentaneamente per nessuno. Per nessuno? Perché momentaneamente nessuno, cioè, in Italia secondo me nessuno ci sta. Vabbè. Niente. Vabbè, Gianni, ciao. Arrivederci. Ciao. Datemi la droga di Carminati, però quello nuovo, Carminati, quello che chiama ancora dal carcere, incredibile, Parenzo, questa roba qua. Pronto? Io mi chiamo Massimo Carminati, segnatelo sto nome. Pronto? Massimo Carminati, segnatelo. Capito? Segnatelo. Quando me lo sono segnato? Se mi venite a fare l'impianto, bene, se no non me ne frega un cazzo di niente, capito? Ma con chi sto a parlare, scusa? Io sono quello che abita là. Quello? Io sono quello che abita là. Ma con chi vuoi parlare, scusi? Io manco te conosco. Segnatelo sto nome, ascolta me, così vai su internet e sai chi cazzo sono io. No, ma io non lo so e non lo voglio sapere, vattene a fanculo. Se non mi attaccate al telefono entro domani, a me non mi frega un cazzo, vado su spazio. Ma tu che cerca te? Oh, ma tu stai a cercare quello là del telefono, io faccio idraulio, che cazzo c'entro? Io sono quello che abita là. Oh, vaffanculo, va. Ma è ancora potente, però la gente comincia a ribellarsi. Non capisce ribellarsi. Marco, la gente comincia a ribellarsi. Ma dice Massimo Carminati, dice, ma che cazzo vuoi? Io non faccio manco i telefoni, faccio quello. Marco da Bergamo, dice, vai a controllare su Google chi sono. Poi pure sta cosa che tu chiami, dice, vai a controllare su Google chi sono, dunque uno dovrebbe mettersi paura. Ma uno che aggiusta i telefoni, ma che gli frega di Massimo Carminati? Te venga a prendere. Marco, dai. Pronto, ciao Cruciani. Dimmi. Ascolta, volevo intervenire per dirti che mi sembra un po' una stronzata la cosa che i cacciatori amano la natura. Secondo me amano il momento in cui abbattono l'animale, perché in quel momento provano adrenalina. Può darsi, ma certo, sicuramente loro non amano la natura. Amano come un giocatore d'azzardo il momento in cui fanno la puntata. Sì, ma quello che c'entra, scusa, le due cose possono andare insieme. Secondo me tutti i cacciatori che ho conosciuto amano la natura molto di più degli animalisti così degli animalisti che sentiamo abitualmente, di quelli di complemento che sentiamo in queste settimane, in questi mesi, in questi anni, e soprattutto amano molto più gli animali di questi sfegatati personaggi che vanno a raccontare cazzate in televisione sugli animali e contro i cacciatori, contro la caccia, contro la carne, eccetera, o no? Secondo me no, perché loro usano un atto diciamo di violenza nel momento in cui cacciano. Ragazzi, ma è certo che quando cacci, ma quando cacci e spari, ma non è una forma d'amore, secondo me, abbattere, secondo me è una forma d'amore proteggere. Vabbè, che banalità. Preservare la ma natura, sì, ma è una cosa banale quella che dici. Ma che vuol dire? Ma è una cosa banale quella che dici. È normale che, cioè, che l'amore non è uccidere, è banale, a parte che sciocca, si arriva anche a uccidere per amore. Tu. Ma comunque, cioè. Perlomeno non è banale, ma non è sciocca. Tu dici una cosa sciocca. No, no, io una cosa. Io dico una. Amano la natura, assolutamente. Amano. Tutti quelli che ho conosciuto. Sparando. Anche. Amano. Anche. Basta, non amano la natura, amano il loro cane. amano il loro cane, ma non amano un fagiano. Ma il fagiano lo amano pure, se lo mangiano. Io posso amarlo, io posso amare un fagiano, e però mi mangio il fagiano. Posso dire che è bello il fagiano. No, ma scusa un attimo. Sì, sì, sì, lo amo il fagiano. Guarda, il fagiano è bellissimo. No, no, no, no, aspetta, fermo lì. No, no, no, no, ti posso assicurare che per esempio i fagiani li ho mangiati anche appena cacciati, no? Appena cacciati, cioè dopo un po' puliti, eccetera, eccetera, fatti tranquillamente, no, come si dice, no, bollire. Tappandosi il naso per non sentire l'odore di merda. No, ma l'odore di merda, quello mica lo faccio io, lo faccio fare, l'ho fatto fare, ma mica l'ho fatto io, amico mio, questo lo faccio fare alla servitù, amico mio, non mi metto mica lì, non mi metto mica lì a fare il fagiano viene fatto dalla servitù, eccetera, eccetera, e poi viene messo, come dire, a bagnomaria, viene messo in una bella bacinella, no, a lessare, a far bollire con delle robe dentro stupende, e ti assicuro che io amo il fagiano sia prima che dopo, cioè lo amo sia prima quando è vivo perché è bellissimo da vedere con queste piume belle, con questo, no, questo piumaggio straordinario il fagiano, e poi anche quando è quando lei è lì a bollire la carne del fagiano, quando poi la addenti, il fagiano lo adoro in tutte e due le versioni, te lo posso assicurare. Dunque io amo l'animale vivo e amo l'animale morto. Riccardo da Livorno. Sì, ciao, buongiorno, buonasera. Dimmi, dimmi. Senti, io volevo parlare... Sì, mettimi, toglimi quell'auricolare però maledetto che hai, quel viva voce, non so che cos'hai. Dai, Riccardo, su, sii buono, dai. Vabbè, dai. E dai, su, senti, ma non si può fare così. Ma no, dai un cazzo, leva questo auricolare, dai. Vai, mi senti? Sì, ti sento, vai. Va bene, dai, volevo parlare degli animalisti. Infatti, quello che mi ha preceduto prima, mi sa che era un po' ubriaco, ma insomma... Vabbè, chi si ritiene animalista non ama gli animali, secondo me. È proprio quello che dicevi te, no? Ma no, ama se stesso, ama se stesso più degli animali. Chi è animalista è estremista, e chi è vegetariano, vegano, ama se stesso più che gli animali. Sì, se ne fotte del prossimo, degli animali, eccetera. Ma no, esibizionismo, ama se stesso, cioè concentrato su se stesso, perché stavo pensando che tu, Cruciani, non sei vegano, sei vegano, come la bega. Io amo gli animali, no? Sì, sono vegano. Questa è buonissima, aspetta, questa ha fatto una buona battuta, Parenzo, fermi. Io non sono vegano, ma sono vegano. Sono vegano, cioè sono, mi farei Sabina Began in questo senso. Sono un tifoso di Sabina Began. Lo traduco, se no non si capisce. E io prendo le royalties. Riccardo, allora? Io amo gli animali, no? Però non ne voglio animali in casa, in un appartamento, un cane in un appartamento, no, vabbè, non lo quello, voglio, ma quello manco io voglio gli animali in casa, manco io li voglio in mezzo ai coglioni, perché poi devo uscire, qualcuno deve portare da mangiare, da fare, un obbligo pazzesco, una prigionia. Per pisciare 8 ore, perché ti torni per portarlo a pisciare, lo fai mangiare quando ti pare, lo fai pisciare quando ti pare, lo fai trombare quando ti pare, perché la scoppi quando ti pare a te. Sì, lo tieni praticamente prigioniero, dai, su, lo tieni prigioniero. E sei anche tu prigioniero, c'è una doppia prigionia. Esatto. Vabbè, Riccardo, siamo d'accordo, per come mi hai rotto i coglioni. Dai, Gilberto da Roma, ciao Riccardo. Gilberto, vai. Pronto, ciao. Dimmi. Senti, sull'argomento cacciatore, questa tesi del cacciatore che ama molto gli animali più degli altri, mi fa pensare che a questo punto anche i pedofili potrebbero essere i migliori amanti dei bambini, dare quindi anche, che so, in gestione gli asili invece di tenere queste puericultrici che danno gli schiaffi, che certe volte... Cioè tu stai, scusami Gilberto, però adesso tu stai esagerando, tu stai paragonando i cacciatori ai pedofili, cioè secondo te cacciatori e pedofili, cacciatori e pedofili sono sullo stesso piano? Sono sullo stesso piano. L'amore del cacciatore per gli animali è simile, anzi, voglio dire, il cacciatore ama così tanto gli animali che li ammazza pure, invece il pedofilo a volte non li ammazza neanche. Ma no, ma sono due piani completamente diversi. Capisco la provocazione, dici, anche i pedofili sono amanti dei bambini, ma sono amanti dei bambini, diciamo, come dire, in maniera perversa. Invece i cacciatori amano la natura, amano gli animali, e alcuni animali li cacciano per mangiarsi. Perversa dell'uccisione, no, che però c'è? Sì, d'accordo, però lì c'è una questione molto semplice, c'è anche una questione di nutrizione, di nutrimento con gli animali, no, che tu cacci. In quel caso c'è solo ed esclusivamente la soddisfazione di una volta la caccia è l'unico modo per procurarsi da mangiare, cioè, anche oggi l'abbattimento di alcuni animali, di alcune specie, è l'unico modo per procurarsi da mangiare, no? Ma questo sicuramente, ma non credo che il veterinario si sia mangiato il leone. Il veterinario, lasciatemelo perdere, perché lo stanno massacrando, lo voglio, no, quello è divertimento puro, ma ci sta anche nella vita il divertimento puro, cioè, non, sì. Ma assolutamente, Gilberto, cioè, ci sta. Comunque guarda, la provocazione è interessante, che... la provocazione è interessante. Cioè, se i cacciatori sono amanti degli animali, come dico io, anche i pedofili in teoria sono amanti dei bambini. Per paradosso, non voglio ovviamente giustificare nessun pedofilo, per paradosso è così. Cioè, questo non vuol dire niente, però si possono fare tantissimi esempi. Cioè, è evidente che i pedofili a modo loro amano i bambini in modo perverso e atroce, ma lì no, o no? Andato a caccia, che ne so, di una beccaccia o di un passerotto, voglio dire, a uccidere un leone mi sembra un altro cretino. Mi scrive un altro cretino che mi scrive: devi avere delle azioni della beretta. Ma quale azione della beretta? Ma di che stai parlando? Io non ho mai conosciuto né la beretta, non ho mai impugnato la pistola in vita mia. Ma di che parli? Ciao. Lei ha lavorato mai nella vita sua? La Zanzara. Davide, vi voglio bene. Davide e Giuseppe, vi voglio bene. Vi voglio bene. Grande ritorno qui alla Zanzara stasera. Beh, abbiamo preso spunto da una piccola notizia di cui parleremo subito. Emilione Fede, buonasera, buonasera. Buonasera, che emozione, quasi non vi riconosco più. Tutto ma come andiamo? Ma non sei morto, Emilio, ancora? No, sei vivo, infatti sei ancora. Io pensavo fossi morto. No, pensavo, c'ero quasi riuscito, però poi guarda. Ma non ho capito, che fai? Hai tentato il suicidio, no? Scusami. No. Che ne so io? No, tento ogni tanto, guardo la televisione, come tentare il suicidio, era una battuta la mia, ma comunque insomma. Perché ma tu qualche volta nella tua vita hai pensato al suicidio? Qualche volta? Seriamente. Ma non ci penso, amo talmente la vita. Mi sono talmente divertito, ne ho fatte di tutti i colori. E beh, quello lo sappiamo, quello lo sappiamo. Ne hai fatte veramente tutti i colori. E noi vogliamo che tu continui a farlo. Vogliamo che tu continui assolutamente a farne di tutti i colori. Parenzo, che stavi dicendo, signor Fede? No, volevo. Tanto lo sentivo con una voce più scoppiettante del solito. Meno male. Che cazzo fa tutto il giorno, Emilione, il direttore? Nulla. Tutto il giorno. E quando posso, naturalmente, in un momento della giornata, lavoro, scrivo, leggo. Vabbè, leggi, ti interessa. Tanto ancora. Perché poi. Ormai disimparato a leggere, tutto ci si sveglia, cosa fa? Ho finito il mio libro. Ancora con sto libro. Il libro è finito ormai. Strepitoso, che non mi frega un cazzo a nessuno. Va bene. A nessuno, soprattutto a noi. Soprattutto no, ma io l'ho dedicato a Berlusconi con questo. Ma tu hai dedicato tutta la tua vita a Berlusconi, diciamo. Molta, gran parte della tua molti vita. Molti anni. Ed è stato anche molto ingrato. Diciamo, molto ingrato. No, diciamo. Lui no. Non lo dirò mai. Guarda, neanche sotto. Vabbè, senti. Però, scusa, adesso poi ricominciamo. Io voglio sapere una cosa. Sessualmente, sai che sono malato di queste cose qua, no? Sessualmente, come sei messo? Non scopi da anni, eccetera. Ma ogni tanto qualche seghetta te la fai o no? Ma non lo trovo neanche più. No, lo come so, non lo trovi più? Cioè tu cerchi sotto e non trovi niente, non trovi nulla. No, ma che cos'è? Di che parliamo? Ma di che parliamo? No, ma non lo trovi più sul serio, non lo trovi più. Sì, no, col cannocchiale. Ma nemmeno quello, nemmeno la masturbazione, che è la cosa più sublime che c'è nel senso nella vita. È la cosa più sublime, ti risolve tanti problemi. Nemmeno quello. Sì, qualcosa me la consento, ma dai. Ogni tanto qualcosina la fai. È perfetta, non paghi niente. No, rischi. Anche non corri il rischio. Quanto? Una al mese, una a settimana, quanto fai? No, uno ogni due giorni. Uno ogni due giorni, bene. Una pipetta ogni due giorni, signor Fede. No, è vero, possiamo dire qualunque cosa. No, ma bisogna dire sempre la verità, che c'è, non è qualunque cosa, sì. Dai. Allora, parliamo di una cosa seria, Emilio. Allora, la tua ex segretaria, è stata appena assunta, ex segretaria, storica segretaria, che non è Fernanda, un'altra, è stata assunta, come si chiama questa assunta da Toti? Si chiama Fernanda, che cazzo dire, no. Povera Fernanda, no, è stata no Fernanda, appunto, è stata dai. Fernanda, si chiama Roberta Ferraro, sono allora, molto emozionato a sentirlo, che mi sbaglio anche il nome Ferraro. Allora, una storica segretaria di Fede è stata assunta dalla Regione Liguria, dal signor Toti, con un contratto di consulenza da 140.000 euro, diciamo che la Regione Liguria, con tutti i funzionari che ci sono, questa ma è no, ma quello è un incarico di fiducia, dai. Vabbè, è uguale, dai. Poi sì, si può far polemica, ovviamente, perché allora, io voglio però capire è un incarico cosa. Di fiducia quello. Voglio capire una cosa. Cioè, io ad esempio, se facessi presidente della regione, ti prenderei come, se, come portavoce. No, non mi prenderesti perché no, ti farei. No, a me, a me. No, a Cruciani ti prenderei immediatamente come portavoce. Ma ti farei fallire subito. Ti metterei alle pubbliche relazioni, ai rapporti col sindacato. Ti metterei a te. Ti farei un contratto. Senti, Emilio, io non ho capito una cosa. Questa tua ex segretaria, come l'hai conosciuta tu? Come l'hai assunta? Allora, Roberta, innanzitutto certamente è cresciuta, no, fisicamente no, non è molto alta, non è cresciuta, però voglio dire, io Roberta, guarda, è curioso, la conosco e l'ho assunta, è stata come segretaria da 24 anni. Per 24 anni con Fede, pensa che coglioni, e, che si è fatta pure questa. Beh, per quello che si è fatta, ha fatto carriera, l'ho aiutata, e è imparato, è arrivata, sai come è arrivata? In maniera curiosa, divertente, cioè? Sì, perché all'epoca, appena sono arrivato, mi chiama Craxi. Craxi, sì, sì, beh, Craxi. È mai dimenticato Craxi. Sì. Emilio, fammi la cortesia, il custode del mio, dello stabile dove abita, lui abita in largo Foppa 4, sì. Il custode che si chiama Ferraro mi aspetta se tra tutte le ore e mi chiede per questa figlia da sistemare, ma per carità, legittimo, e tu la sistemi, e tu la sistemi, e arriva da me Roberta. Ah. È cresciuta, certamente cresciuta bene professionalmente, brava, sì. Beh, 24 anni sotto il tuo tallone, insomma, sotto il tuo gioco, sotto il tuo gioco. Però va detto, non te la sei mai fatta, no? No, no, per carità. No, non è mica da buttare via, eh. Comunque grande riconoscenza. Quando sono stato licenziato, sì, non mi ha fatto neanche una telefonata per dire, cioè, che ingrata, ma così ingrata è? Beh, no, di più. Beh, l'ingratitudine è una cosa che si lega anche alla gratitudine che manca, ma lì è una cosa, io sono stato allontanato amorevolmente in 30 secondi, 40 secondi, è sparita, non mi ha mai fatto neanche la guarda. Cioè, da quando tu sei stato cacciato, diciamo, cacciato, sì, diciamo la verità, cacciato. È poco, di più, diciamo così, no? Beh, umiliato, umiliato, diciamo, come dire. Voglio dire, allontanato. Beh, allontanato è poco, io ho detto cacciato, ho detto allontanato, sì, scusa. Vabbè. Cioè, da quando sei stato allontanato da Mediaset, questa signora segretaria, oggi assunta dalla Regione Liguria con un contratto di consulenza da 140.000, non ti ha fatto nessuna telefonata. Beh, che deve fare? Che gli devi dire? Vabbè, uno poteva fare la telefonata, scusa. Ma per dirgli che cosa, però? Ecco, guarda, questo è un esempio. Io, guarda, ho molti amici che sono rimasti. Molti amici proci. Molti amici proci. Anche sono molto intelligenti. Io sono andato via dall'aviazione allontanato. Perché sono molto intelligenti? Scusa, apro una parentesi. Perché secondo te sono molto intelligenti? Non è che tutti gli etero sono intelligenti. No, respingeva la mia posta, neanche mamma la mandava a casa, niente, assolutamente. Cioè, ti ha cancellato, ti ha cancellato. Sì, mi ha cancellato. Pensa, le ho regalato anche un chihuahua per fare la contesta durante un chihuahua, come un chihuahua. L'ho voluto molto bene, perché è uno in gamba. Cioè, tu hai regalato, ecco, capisco perché non ti vuole più adesso, capisco perché ti ha cacciato. Le hai regalato un chihuahua. Amico mio, se a me mi regala un chihuahua, piglio la pistola e sparo. Attenzione, no, chihuahua, è una grande professionale, professionista. Oh, diciamo. Bravissima. Però 140.000, lei, 140.000. Lei è detentrice di tutti i miei segretucci. Questo è interessante. Allora, la segretaria di Toti, presidente della Regione Liguria, assunta dalla Regione Liguria con un contratto da 140.000 l'anno, 140.000 che io pago, e anche tu paghi. Io pago. Ha tutti i segreti di Emilio Fede, ha in mano, sì, tutti i segreti, cioè può dire gli appuntamenti, che segreti vuoi, così, la posta privata e la chiavetta, per dire, con 1200 contatti, no? Cioè ti può ricattare, no, tranquillamente. No, ci mancherebbe altro. No, però può rivelare delle cose un po' sconvenienti. Sì, forse non l'ha fatto, ma non credo. No, sarebbe tragico, insomma, l'ho trattata, l'ho portata quasi ai massimi livelli. Ma veramente 140.000 euro? Non 140.000, aspetta un attimo che torno con te, c'è la pubblicità. Ferma, Emilio Fede con noi, 800 24 00 24. Mi faccio una sega. Tu? Vuoi un consiglio? Fatela anche tu. La Zanzara. No, non sei Cruciani, se sei Cruciani ti mando subito a fanculo. Sì, mio amore, ti capita? Sì, sta pronto, già, è già fare sede. Sai cosa sarebbe il massimo, Parenzo? Che Emilio Fede ci confessasse di essere diventato vegano, vegetariano. cioè, non da credo, però Beghiano. Ci provo. Beghiano, ah, come la Sabina Began, come detto. Began. Begano, Begano. Emilio? Ma Begano, se intendi dire la Began? La Began, esatto. Hai visto che si è messa a piangere, che dice che era innamorata di Berlusconi, che l'aveva amata. Vabbè, va, ci credi tu? Ma io la conoscevo benissimo lei. Anch'io. Non l'ho mai vista piangere, però insomma l'ho vista piangere adesso nelle immagini, devo dire che mi ha fatto tenerezza. Si può anche piangere per amore, è innamorata, sì. È che gli puoi dire niente, ma è diverso. Poi facciamo il discorso, vedi, voglio dire a proposito di Roberto, bravo, bravo direttore, ma buona chi? Redazione. Ah, no, Totti dici? No, ma anche Totti. Bravo, ragazzi, Però alla fine tu consideri questa segretaria assunta un'ingrata, in sostanza, no, nei tuoi confronti un'ingrata di più, io di devo più. Dire, l'ingratitudine esiste, la non riconoscenza esiste, questa che cos'è? Però posso dire è qualcosa di più di ingratitudine, addirittura, cioè, sì, ma certo, scusa, ma se e che cos'è, guarda, allora, cos'è? Tradimento, ma cos'è? Ma non si capisce, non mi ha bloccato, non mi passava neanche le telefonate in quella mezz'ora che mi hanno licenziato. La mia corrispondenza l'ha tenuta. Era in combutta con l'azienda, dai, in combutta con l'azienda. No, l'azienda, guarda, l'azienda per quanti torti possa avere, non va in combutta con una persona come la Roberta Ferraro, per carità, voglio dire. Comunque stavi dicendo dei 140.000, che è successo dei 140.000? Sono tantissimi, cioè no, 140.000. Sai cos'è il problema? Io ho avuto molte telefonate oggi da parte di ex segretari, di persone che sono disoccupate, eccetera, però capisco, non lo so. Cioè, che ti hanno detto? Non ho capito, queste ex segretarie. Sì, vabbè, no. Questa è rimasta amica di Todi e questa a un certo punto gli ha trovato una consulenza, dai, su. È una consulenza, certo, non è me... A te è sempre un cazzo, a te è sempre un cazzo, a te non arriva mai niente qua, No, appena mi arriva un tubo di niente, perché c'è ancora la Alecci con la c'è una notizia. Ecco, la notizia che mi aveva fatto un sequestro conservativo per 360.000 euro, sì. È stata condannata, sì. A restituirmi i miei soldi, tranne una piccola parte, tranne 60.000, anche... t'hanno ridato 300.000, ridacceli i soldi a Alecci, aspetta, è stata pure condannata a pagare le spese di... com'è che fa la canzone? Dacceli i soldi, dacci i soldi nostri, dacci i soldi, se non ci ridai i soldi prima o poi ti mangiano i sorci. Oh, la la la mia, la la la la la. È impazzito completo. Ma la canzone con cui vorresti essere ricordato quando crepi, qual è, Emilio? Dai. Ma poveretto, non è che gli devi tirare ogni volta. Poi morirà, come tutti. Gli allunghi la vita, facendo così, esatto, gli allunghi la vita. Esatto. Posso dire? Sì, c'è una canzone. Soffia il vento, soffia la bufera, no. Scarpe rotte, pur bisogna andare. Bella, dimmi. A conquistare, oddio, mica di sinistra. Vai, com'è? A conquistare la rossa. La nostra primavera. Dove brilla il sol dell'avvenire, nella notte ci guidano le stelle, qualche volta ti incroci ed incrociati, e da Virparenzo ti rompono i coglioncini, forza Italia. Ma come fa? Come fa? Dai, come fa Bandiera Rossa? Come fa Bandiera Rossa? Scusa, la sai? No? Aspetta, no, conosco Sentisci il vento. Bandiera Rossa, la trionfera. Poi? Io devo dire, è vivo il comunismo, non lo posso dai, dire. Dai, dillo. Bandiera rossa, la trionfera, e viva il comunismo e la libertà. Evviva, bravo! Applausi. Senti. Vabbè, senti una cosa, sei stato rinviato a giudizio, ma tanto a te che cazzo ti frega, hai oltre 80 anni in galera, non ci vai, allora, in galera non allora, ci vai. Io sarei stato rinviato a giudizio per estorsione, tentata estorsione. No, vabbè, ma che ti frega, ma già c'è una condanna sul gruppone, ma che te frega, dai. Per avere tentato di ricattare per poter restare direttore anticipato, alla miseria al battere. Vabbè, dai, su, hai tentato di estorcere cosa? Ma dai, su, sei colpevole, dai, su, dai, Emilio, dai, non mi fare incazzare adesso, dai. Hai combinato un casino, dai, hai combinato un inferno. La mia vita è stupenda. È una storia stupenda, nel bene e nel male. Ma perché non vuoi andare in carcere? Fate qualche mese in carcere, stupendo. Allora, sai cos'è che mi sconvolge? Cos'è il carcere che mi troverei che con cosa? Gente detenuta che magari potrei anche assistere psicologicamente. Ma metti che poi mi mandano i servizi sociali e metti che mi mandano da Don Pazzi. Cioè, meglio il carcere di Don Mazzi. Ah, sicuro. Vado come subito. San Vittore, mandatemi dove di stare. Ma come meglio il carcere di Don Mazzi, dai? Dai, insomma, lo sanno tutti, meglio il carcere di Don Mazzi. Perché dici così? Fa rima, meglio il carcere, no, meglio il carcere, meglio Mazzi che Don, vabbè, insomma, meglio cazzi che Don Mazzi, ma meglio. Come meglio cazzi ma che come? Don Mazzi? No, però scusate, ma veramente voi scherzate? Io se vado ai servizi sociali, voglio andare a fare veramente i servizi sociali, che vado da Don Mazzi? E che ne so ma io? No, scusate, ma perché io sono, devo essere così mortificato? Voi che siete i miei amici più cari, il carcere sì. Pensa agli altri. Il carcere sì, non hai paura del carcere. Il carcere no, non ho paura perché io sono un garantista. Magari trovo anche dei detenuti che mi aiutano, ma che sì, possono simpatizzare. Io sono solidale con chi è in carcere. Però dici da Don Mazzi non ci vado, da Don Mazzi no. No, da Don Mazzi no, ma so. Alla mia età che mazzo di Don Mazzi faccio? Scusa, sì, no, sì, no, che è vero. Senti, hai avuto da ridire col signor Nuzzi per la storia di Vati Lix. Nuzzi, cioè? Come si chiama Nuzzi? Sì, Nuzzi, Gianluigi, non storpiare il nome, Gianluigi Nuzzi. Come si chiama? Scusa, come si chiama? Cronista, come si chiama? Nuzzi. Nuzzi. Ho letto che si è avuto una discussione con Brosio, ha detto a Brosio tu hai avuto come direttore Emilio Fede, io invece ho avuto come direttore Montanelli. Allora io gli ho mandato un messaggio, caro pazienza, hai avuto il direttore Montanelli, uno sfregio in più, uno sfregio in meno, non ti cambia niente. Ah, solo così gli ha detto, così detto. Sfregio. Uno sfregio in più, uno sfregio in meno. Ma dai, ma perché? L'ha attaccato. Ma l'ha attaccato su cosa? Dai. Vabbè, ma non venire a rompere i coglioni a Fede, dice Fede. Ma no? Appunto, ma cosa c'entra Fede? Ma non ho capito questo Nuzzi. Ma no, perché quell'altro Nuzzi, lì, Broso, Nuzzi è stato cima. Un grande giornalista, tu sei stato un po', capito? Tu. Ha fatto uno scoop mondiale. Dai, ma su. Vabbè, in tutto il mondo mondiale. Ne parlano. Tu che scoop era in Francia tu oggi che scoop lì a battagliare. Ho capito, ma che me ne frega a me? Che scoop hai fatto tu? Quello ha fatto lo scoop mondiale, tu che scoop hai fatto? Dai. Io sono un grande giornalista e lui non lo è. Ma come non è un ma grande come lo è, anzi, come lo tanto vediamo dietro questi scoop scappet, poi chissà cosa viene fuori. Carità. Ma ho fatto scoop. Comunque tu sei un grande giornalista e lui non lo è, questa è la differenza. No, la differenza è questa. E poi va a dire a Brosio: ah, io ho avuto Montanelli, e beh, con questo. E sti cazzi, non ce lo metti, dice. E sti cazzi, dice, non ce lo metti, dici. Ma sti cazzi, ma poi vuol dire cosa, perché te ne frega di tirarmi in me? Ho dato fastidio, sai perché non lo diciamo? Perché, dici? Perché sono bravo, perché sono per bene. E a un certo punto, a molti, mica sono se il prossimo libro si chiamerà Ruffiani dalla A alla Z. Un altro libro, ma c'è un cazzo da fare. Lo sto scrivendo tutto. No, hai capito? Quindi senti, però un'ultima cosa ti voglio chiedere, poi ti lascio, Emilio. Ma la Pascale, no? Signora Pascale, che pare si siano lasciati con Berlusconi. Pare. Ah, intanto si è beccata una casa. Intanto subito si è beccata una casa, pronti via. Dice Olin, no? Questa linea è talmente disturbata che devo chiedere di passare alla prossima domanda. No, guarda, posso dire. Io con Francesco Lassal sono stato amico molto, l'ho protetta molto, l'ho voluto anche bene. Vabbè, poi? È sparita, non ne so più niente. Ma tutti spariscono, ma come mai tutti spariscono? Ci sarà un motivo? Mi farei delle domande. Perché adesso non hanno più bisogno. Tu dici. Intanto lei ha beccato una casa e tu niente. No, io no, io sono entrato in affitto, io adesso mi pago l'affitto. Lei c'ha la villa e tu sei in affitto, tu hai leccato il culo a Berlusconi per non so quanti anni. Lei per meno, lei una casa e tu niente, capito la differenza? Cioè, è giusto questo. Tu hai leccato il culo a Berlusconi per un sacco di tempo. Lei per un po' di meno, lei si è beccato una casa e tu stai in affitto a Milano 2. Guarda, io posso dire una cosa, io conosco molto bene Berlusconi. Io non credo che Berlusconi possa essere ingabbiato, fra virgolette, in una storia d'amore perenne. Beh, come? No, ma lui ha bisogno di libertà, lui non può essere accalappiato, dici, non può essere accalappiato. Stavo dicendo una battuta, è un uccello libero, poi si può capire. È un uccello libero. Sì, è bella come è bella la battuta, è un uccello libero. Sì, che vola alto, capito? È bellissima questa cosa. No, possiamo anche ripetere, che cos'è Berlusconi? È un uccello libero. Un uccello libero. Beh, si è capito, da molte cose si era capito calambur, che è l'uccello calambur. Un po' svolazzante, come dire, no? Lo diciamo almeno calambur per no, guarda, lui vuole essere, non so come dire, vuole essere libero, non lo puoi, capisci, contenere. Non lo puoi ingabbiare, no, non lo puoi ingabbiare in una storia. Alla lunga, non ne può più. Diciamo, alla lunga non ne può più. Sì, ecco, sì, secondo me alla lunga non ne può più. Adesso, perché il signor Cristian Rocca mi chiama al telefonino? Tu spieghi. Emilio, ti saluto, vai, ti abbraccio. Ti abbraccio, ti abbraccio, saluti, sempre, ragazzi, sempre presenti, Don Massino! Don Massino! No, no, no, no, pubblicità! Beh, cari amici miei della Zanzara, siamo al top, siamo veramente al top! La Zanzara. Ormai è tutto degradato. Ma qui è tutto un casino, che siamo. Ma dove siamo? Ma dove vogliamo andare a finire? Ma non facciamo ridere, per favore. Allora, Massimo da Roma, vai, Massimo, 800240024, Massimo. Buonasera. Dimmi, Massimo. Potrei parlare col signor Parenzo? Parenzo sta qui, certo, sta qui a disposizione. Qui. Oh, pronto? C'è Massimo, signor Parenzo? Sì, c'è Parenzo. Sono c'è. Qui, Massimo, forza, dica. Signor Parenzo, è qui. Lei vorrebbe denunciare i reati. Sì. Le faccio presente che l'istigazione a delinquere è un reato. Sì, allora? Lei parla tutti i giorni insieme a un signore che dice che se qualcuno entra nella mia proprietà io lo devo ammazzare. Non ho detto o lo posso ammazzare. C'è detto? Già la legge. Quello ma chi l'avrebbe detto, scusi? Tu. Ma quello che io sono dico io? A Conciari sempre che la legge lo tutela. No, ma in realtà. Vabbè, ma adesso non ci rompere i coglioni con la legge, Massimo. Massimo. Ma questo è il fatto. Allora, ma non ho capito, chi dovrebbe denunciare Parenzo? Te, dice lui. Signor Parenzo, ma io sento una voce. Allora, senti la voce in testa, ce l'hai. Non ce l'hai. Ammazza la gente. Non c'è dubbio. Ma che vuol dire giustificare? Massimo, io non ho capito. Partiamo dall'inizio. Chi dovrebbe denunciare Parenzo? Lei. Ah, dovrebbe denunciare me, Parenzo. Perché certo, cosa? Per quale reato? Delinquere è reato. Io commetto un reato, l'istigazione a delinquere. Lei istiga la gente a sparare a quelli che entrano nella loro proprietà. Ma tu sai, c'hai le pigne e in testa. Lo fa da mesi. Ma tu hai le pigne in testa, c'hai non so che c'hai in testa. Io non istigo nessuno a sparare. Io ho detto semplicemente che uno dentro casa, se possiede una persona, una pistola legalmente, se vede la sua proprietà, i suoi beni, la sua famiglia assaltata, avvicinata da malintenzionati, ha tutto il diritto, ovviamente non sparare con la mitraglietta a 100 metri di distanza, a meno che non sia sicuro che quelli siano dei ladri, ma insomma nelle vicinanze della casa ha tutto il diritto di difendersi per non essere assaltato, stuprato, derubato. Ma lei, ha anche detto che ha il diritto di difendere le sue proprietà, perché il signor Hermes non difendeva la sua casa. Che cosa difendeva? Difendeva la sua proprietà. Magazzino. Ma è uguale, amico mio. La proprietà è benissimo. Già previsto dalla legge. Abbiamo già capito. Potrebbe dirmi se può difendere anche la mia vigna? Perché c'è un bambino che viene a rubarmi un grappolo d'uva. Posso sparargli? Ma che vuol dire? Cosa vuol dire? Vuol dire che lei sta dando il prezzo alla vita. Io non sto dando nessun prezzo, conto? Sparare si può sparare ovunque, non è detto che si ammazzi sparando. Se poi uno viene fatto secco, cioè non è che gliel'ha chiesto, non gliel'ha chiesto nessuno. Faccio secco il bambino che mi ruba un grappolo d'uva. Ma che vuol dire? Nessuno è spara un bambino proprietà. Che ruba un grappolo d'uva, non facciamo è esempi stupidi. Come quello dei pedofili, qual è la differenza? Come quello dei pedofili prima, dai, su un esempio stupido, è chiaro che non si può difendere. E la proprietà di Hermes qual è? Il valore? No, Massimo, ma che vuol dire? Ma non fai esempi assurdi. Sta dando un valore alla vita. Ma lei non c'entra nessun valore. Vale, sto non dicendo vale un grappolo d'uva, ma vale sto le dicendo, cose che c'aveva Hermes. Sto dicendo semplicemente che quando il signor Mattielli, Hermes e non Hermes, come ha detto la Salta Martini, il signor Hermes Mattielli è andato lì e ha visto, non era la prima volta, che dei signori si sono introdotti dentro il suo magazzino dove aveva del metallo e cose di questo tipo, non ce l'ha fatta più dopo l'ennesimo furto e ha sparato, e tra l'altro non ne ha nemmeno ammazzati il signor Mattielli questi due sono vivi e vegeti, certo un po' malandati, perché i ladri quando vanno a fare una missione, quando vanno in perlustrazione, quando vanno ad operare, quando vanno a fare il loro lavoro, beh, devono mettere in conto che c'è un signore che a un certo punto si fa due coglioni così di aver subito il quarto, il quinto, il sesto furto e reagisce sparando. Ma non è tra l'altro questo signor Mattielli ha reagito sparando alle gambe, certo magari poi è infinito, magari poi voleva essere sicuro che questi qua non gli rompessero più i coglioni, ma che vogliamo fare? 4 anni, 5 anni eccetera, poi per carità i giudici sono convinti di questo, non è che dico che bisogna sputare i giudici come qualcuno dice, Allora, Massimo? Niente, non ce la fai a replicare, fermo. Una cosa controtendenza. Viva il traffico! Viva il traffico, perché c'ha una voce sexy! Nuova Audi A4. Scopritela negli showroom Audi e su Audi.it. Vi presenta La Zanzara. Allora andiamo a pescare ad Arturo, vai, 800240024, dai ragazzi, forza Arturo. Ciao, ciao, Cruciani, senti, prima cosa, tu per me sei il re, ti spiego perché. Allora, tutti dicono che tu sei a favore della caccia, delle armi, ma non hanno capito un cazzo, tu dici tutte queste cose perché è tutto un prolungamento del tuo pisello. No, no, fermali, stai tranquillo, stai fermo, che significa il prolungamento del pisello? Non, ti spiego, cioè, ti spiego. Io dico queste cose perché allora, sono convinto di queste cose, non c'è nessun prolungamento. Ti spiego, ascolta. Ah, dai, allora, su. Tu sei la zanzara vera, cioè sei quella fig addicted, cioè praticamente ti si dovrebbe clonare. Io ti ho anche ribattezzato tra gli amici, sai, tu hai visto il silenzio degli innocenti, no? Sì. Là praticamente c'è il killer. Sì. Hannibal Lecter. Tu sei il killer, esatto, no? L'altro Buffalo, sì. Bill. No, amico, ma Buffalo Bill sei, adesso mi... sei... Ma non è che mi stai paragonando a Buffalo, ma sei impazzito, no, sei. No, ma quello tu era sei uno, Buffalo Bill. Un rapitore, di, un rapitore di ragazzine, ma sei impazzito. No, tu sei Buffalo, cioè sei l'amante della boffa, che è la cosa più bella del che mondo. Che vuol dire boffa? Io non sono, non mi intendo boffa, molto di dialetto. Boffa è la gnocca, la gnocca. Da noi in Abruzzo si dice anche fregna. Tu sei fregna. Ma boffa no, però. Io non l'ho mai sentito boffa. Boffa anche in alcuni distretti si dice anche boffa. Va bene, non ci fermeremo comunque, di fronte, non ci arreneremo in questa discussione. Comunque, non lo so, ma è curioso, pure boffa l'hai mai sentito, scusa, io non l'ho mai sentito no, boffa, però si può dire mille modi. Non è sì, che cioè, mi ha svoltato il martedì questa notizia. Vabbè, ma è curioso anche, no? Il sì, modo di dire la figa in giro per l'Italia, uno dice boffa, potrebbe essere una nuova rubrica, per carità di Dio. Quello è malato come te, vai Arturo, c'ha la tosse come te, vai Arturo. Allora, vabbè, tossite tutte e due. Ma volevo arrivare al punto, tossisco. Così. Tu questo, quindi aspetta, sei serio, la zanzara. Questo. Vabbè, questo perché, lo sappiamo, dai. Poi... Ecco, perché punge le gnocche, secondo me, come boffa la Bill, a casa c'ha le provette dei vari gusti. Non so, c'è la gusta Granny, la gusta Cougar, la gusta Airy, no? Che sono le pelose che pure a me piacciono tantissimo. Airy si dice, Airy. Sì, vabbè, io sono della provincia. Beh, anch'io sono poi della che provincia. C'è? Le mature, tu ti piacciono le mature, no? E tu secondo me a casa tieni i campioni. Ma tu sei un cacciatore. Adesso, però, scusa, amico mio, però questo è interessante. Tu mi stai accusando, questo io denuncio per diffamazione. Stai dicendo che tengo i campioni di patata. Di, a casa, cioè, ma che faccio? Dovrei squartare le persone. No, ma i campioni che le foto, che faccio? Comunque si va per parlare, qui non si fa niente per parlare qui. Qui ci sente un sacco di gente. Che se, poi dico mi la polizia qui comunque... a casa mia, fa un'irruzione che pensa che ho i trofei messi lì dentro l'ammoniaca. No. Dai. Io volevo dire questo, comunque, chiamato per questo. Dunque, nella mia esperienza, io ho notato che c'è una differenza di gusto tra le patate vegane e quelle carnivore. Questo è interessante, questo è molto interessante. Sì. Devi ammettere anche tu che questo è interessante. Cioè, l'odore delle donne, vuole dire, sono l'odore delle donne, non solo l'odore dell'organo genitale, diciamo, no? È diverso. Ma questo lo sostengono i vegani. I vegani sostengono di avere anche un odore diverso rispetto ai carnivori. Cioè, esatto, un odore. E dunque, l'odore riguarda anche la questione del sesso, ma mi pare abbastanza chiaro questo qua. Te lo posso tradurre anche in una forma più nobile, questo pensiero di Arturo. Vai, Arturo, che volevi dire? Cioè, io, per esempio, no, in Abruzzo da noi si mangia una frega da rusticine. La rusticine è la carne di pecora, no? Sì, e allora e che c'è? Quando tu ti fai una bella serata in compagnia, magari con la tua compagna, no? Cioè tu dici, se la donna si è mangiata gli arrosticini ed è come dire, carnivora... Amico mio... Cioè si sente anche l'odore, si sente anche l'odore. Invece se tu ti fai una ragazza vegana... Beh, è un sapore più delicato, è una questione di gusti. Se tu sei più ruspante, io per quello... La teoria, faremo le grandi inchieste della Zanzara. Mancava. Vai Arturo da pescare. Questo è un messaggio del signor Paolo Liguori che ama molto le grandi inchieste della Zanzara. da poco direttore di TG24, ama molto le grandi inchieste della zanzara. Questa è una grande inchiesta, cioè alla fine la gnocca, questa è la sostanza vegetariana, ha un odore diverso da quella. Ma si è capito, non occorre che fai il riassunto ma no, della ma quello situazione, capito, cioè, diverso della quella, notizia che ritieni carnivola. Del giorno. Grazie Arturo, grazie. Devi sapere, Parenzo, che ci sono una serie di signori che si chiamano neoborbonici. Ma possiamo segnalare due notizie importanti? No, no, ma che notizie sono importanti? Avanti, allora, dimmi. Commissario alla spending review, tal signor Perotti. Sì, si è dimesso, sì, si è dimesso. È il quarto in pochi anni. Il quarto in pochi anni, dunque? Buffoni, fine. Buffoni chi? Cioè, governo, stai dando a Renzi del buffone. No, ma buffone. Questo è interessante. Al governo. Certo. Cioè, al governo c'è una manica di buffoni. Ma sì, perché se tu nomini, ma senza dubbio, ma detto con pacatezza e rispetto. Sì, sì. Se tu nomini un commissario alla spending review, è il quarto, mi ricordo. Vuoi il dire signor che Bondi. Significa che non puoi fare un cazzo, in sostanza. Che non vuoi farlo, lo nomini, Bondi. Cioè, traduciamo però la spending review. La spending review significa è il taglio delle spese inutili, esatto. Delle spese superflue. Se no, ne perché? Hai nominati 4, cioè, quanti sono stati? Bondi, Cottarelli, sì, la non lista... è che l'ha nominati tutti Renzi, No, ma dico i governi in sì, generale, governi l'ultimo governo buffone, sì. L'ultimo, ma sulla lista sono tutti, negli ultimi anni, ogni governo ha nominato il suo. Il quale poi a un certo punto dice non posso fare niente. Ha scritto il rapporto, poveretto, l'hanno fatto lavorare, si è fatto il culo per dei mesi, ha detto bisogna tagliare qua, tutti hanno scritto le stesse cose, peraltro, sì. Bastava che si passassero nello stesso copione e risparmiavano anche dei soldini, perché le cose da tagliare sono sempre quelle. Giusto. Si dimettono tutti, giusto. Si dimettono tutti, adesso nomineranno un altro che dirà bisogna fare uno studio, su che cosa? Spending review. Altri mesi, 6 mesi di altro studio in cui ci saranno le stesse cose che già indicò a suo tempo il signor Bondi, il signor Cottarelli, il signor Perotti, cioè, arriverà e dirà queste sono le spese, ah non possiamo tagliare, basta, si dimette e ricomincerà tutto da capo. Mi piace quando sei sul pezzo. L'altra notizia qual era? L'altra notizia altrettanto importante è una nuova bitonciata fatta da un signore che è il sindaco della Lega Nord. Ma tu là sei prevenuto, dai, c'è un conflitto di interesse lì. Comunque dai, tu sei amico di Zanonato e Zanonato è nemico di Bitonci, dai. Ma non è nemico. C'è un conflitto di interesse, dai. Come fosse ma sì, tu sei amico di Zanonato. Ma sei amico di Zanonato e dunque sei che Zanonato è nemico di Bitonci. Vabbè, qual è la notizia? Se Bitonci dovesse fare una cosa buona, sono pronto ad ammetterlo. Benissimo. Ancora non l'ho trovata. Ma dai, ne fate molto. Le dimissioni potrebbero essere una cosa buona. Avanti, dimmi ha vietato una sala del comune, sì. A una signora Marzano, sì. Sì. Perché che avrebbe dovuto presentare un libro a suo dire che propagandava le teorie gender. Ha vietato, vabbè, questa la è una sala. Puttanata, dai, questa è una puttanata. Leggi sul fatto no, ma è una puttanata, sto dicendo se l'ha fatta Bitonci, una puttanata, dai, ha certo. Fatto male. Falla certo. Parlare, chi se ne frega, poi dice che negato sei contrario. La sala, non c'era finanziamento, vabbè, devo dire che questa non mi pare una notizia molto importante. Hai dato la prima sì, la seconda è una cazzata, dai. Allora, i neoborbonici, signori neoborbonici, per l'ennesima volta invitano al boicottaggio, chiamano gli sponsor, gli inserzionisti di questa trasmissione, la gente che mette i soldi, i quali ovviamente se ne fottono, dunque neoborbonici potete continuare quanto volete, ma se ne fottono quelli lì di quello che scrivete, perché appena vedono la parola neoborbonici, quelli si fanno una risata, impacchettano la mail, se l'hanno stampata, forse non l'hanno nemmeno stampata, fanno cancella, elimina, appena vedono la parola neoborbonici. Chiaro? Giuseppe da Padova, dai. Pronto? Dimmi. Sì, aspetta, fermo. Giuseppe, fermo un attimo, che abbiamo ricevuto un'altra cosa molto importante. Carminati ha chiamato Emilio Fede. Parenzo. Non è vero. Sì, per risolvere il suo problema. Ti giuro, ha chiamato Fede per risolvere il suo problema, cioè la linea telefonica che non funziona, cazzo, è molto importante il telefono del signor Carminati. Ha chiamato Fede. Ma questo sta morendo, io non ce la faccio più, dai. Io mi chiamo Massimo Carminati, sentitelo sto nome. Prego? Io mi chiamo Massimo Carminati, sentitelo sto nome. Io sono Giovanni Carminati, siamo parenti allora. Massimo Carminati, segnatelo così vai su internet e vedi chi sono io. Sì, ma io non vorrei spaventarmi. Segnatelo sto nome, ascolta a me. Così no. Vai su internet e senti e sai chi cazzo sono io. Tu sei uno stronzo sicuro. Io sono quello che abita là. Come? Io sono quello che abita là. Tu abiti dove cazzo abiti? In carcere, in quale cella sei? Se mi vieni da fare l'impianto bene, se no non me ne frega un cazzo di niente, capito? Sì, aspetta. aspetta un attimo, sei un rotto in culo, però tua mamma è una puttana troia, aspetta. Sì, pronto? Io sono quello che abita là. Sì, una grande amuto. Massimo Carminati, segnalo. Capito? Segnatelo. Ma chi sei? Non ho capito. Lei sta infastidendo, sei una grande amuto. Io mi chiamo Massimo Carminati, segnatelo sto nome. Ma ci vuole un provato. Munnetta, presente di persone invece voi sto parlando da lei. Massimo Carminati, segnalo così vai su internet e vedi chi sono io. Una grande amuto. Io questo vorrei capire a un certo punto perché ha passato questo per ridere, mi sta strozzando. Ha passato un napoletano. Adesso sta morendo. Ve lo dico a voi due d'amico. Fatevi i cazzi vostri. State ascoltando un programma offerto da Huawei. Make it possible. La Zanzara. Ragazzi, veramente siamo messi male, siamo alla frutta. Sono tempi duri, non tanto per noi, che ne frega niente, nulla, zero. Stamattina ti ho visto fare una grande battaglia all'area che tira contro il signor Gasparri, contro il signor Fedriga della Lega. Fedriga, sì. Ma ho sentito delle cose anche assurde, soprattutto ho sentito non Geremica. Da parte mia. No, tu dici sempre le stesse cose, cioè nel senso dici le cose che sì, sento, vero, qua, cioè, nel senso che non, certo, no, cose devo, diverse. Che cioè che ci sono già le leggi per punire la legittima difesa e quant'altro. Geremica, che è un cronista, un giornalista. L'ottimo Geremica. Vabbè, un signore. Ha fatto una bella battaglia anche lui. Ha detto Siciliano ha raccontato delle balle. Cioè, sì, lui ha detto, non so perché, ha già, sì, deciso al posto dei giudici. No, è quello che è uscito. È vero? No. Fallo ha già deciso vero al posto dei giudici. No, prima che Siciliano ha raccontato delle, no, balle. No, ma l'abbiamo ricostruito anche ma noi, non scusa. Non hai ricostruito una mazza, tu, no, dai. No, scusami, tu lo vuoi far presidente dire, della Repubblica? Come fa a dire, lì quella è una provocazione. Hanno citato anche come il tuo fai, tweet. Come eccetera fai a dire che ha detto una lo balla? Lo stanno stabilendo gli giudici. Lo stanno stabilendo. Ma ancora quello ha detto che è venuto dentro, poi si è scoperto che gli ha sparato, no, fuori. No, ma stai tranquillo, ancora gli inquirenti non hanno detto che ha mentito, perché se dicessero, se affermassero che ha mentito. No, è siamo calmi. Vabbè, questo che c'entra adesso? Quell'età, no, Prodi, serenità. Adesso perché si inserisce Prodi in questa tradizione? È stato una persona con calma. Beh, ho capito, non è con calma. Mi hanno solo sparato. Ma no, tutto questo clamore che fa rovina la governabilità. Ma no, per stare tranquilli e far leggine con calma. Ma no, le leggine con calma. Piccole leggi. Con la leggina salvano sui partiti ce l'avete buttato al culo, signor. Con grande calma, se dico però, culo, senza Prodi aggressività, senza sempre parolacce, dice serenità, lei, no? Tranquillità e governabilità. Geremica, Siciliano ha raccontato balle, lo sa lui, i giudici ancora non hanno deciso. Quel pensionato ha raccontato delle balle, diciamo, quello non era in casa, ha immaginato un percorso che questo ferito non avrebbe potuto. Insomma, dopo due ore, diciamo, dall'omicidio, il presidente della regione Lombardia, con i soldi, esatto, nostri, decide di offrire il patrocinio gratuito a questo signore. Cosa giustissima, sono orgoglioso. Perché di questo. No, è un atto demagogico. Sono orgoglioso. Pericoloso. Orgoglioso di difendere di dire vergognoso. Vabbè, sul gratuito patrocinio, sui soldi, quello si può discutere, ovviamente alcuni sono d'accordo, altri no. Io per esempio, no, cioè, Geremica diceva giustamente, senza ancora sapere la dinamica delle cose, che prima che venga balle rinviato, che ha raccontato balle. No, ma cioè, prima Siciliano ha raccontato che la procura balle lo rinvia a giudizio, capito? Ma cioè, siccome c'entra, non c'è nessun non rinvio a giudizio, non ha raccontato nessuna balla fino a prova, vabbè, contraria ancora. Ancora non hanno deciso i giudici, lo sa Geremica, lo sai tu? Cioè, anche tu hai detto ha raccontato delle balle. Ha raccontato delle balle, la ricostruzione che ha fatto. Ma che ne sai? Ma che sei un investigatore? Che è stata, ma chi lo dice, che abbiamo chi lo letto sostiene sui giornali, ma non è quello vero che abbiamo visto in queste ore, in ma questi non giorni è vero, non è così, niente, non è vero, è arrivato Gasparri, l'avvocato di Siciliano Mattielli ucciso da quella sentenza, ecco, signor Gasparri. E Hermes Mattelli, che è morto, poverino, a seguito di un infarto, addirittura dire che è morto per colpa della giustizia. Ma non so, è stato ucciso da questa giustizia. Adesso, di caso Tortora. Ma non è che è diverso da Africa, come cavolo, ma di caso Tortora ce n'è uno. È morto per quello. Siamo seri. È ovvio che è morto per quello. Siamo molto seri. È colpa di chi l'ha condannato a pagare i soldi. Ma siamo seri. È colpa del magistrato che l'ha condannato. Quindi è un assassino quel magistrato. È colpa, la colpa è un concetto vasto. Vado in fondo. Gasparri dice che quel magistrato è un assassino. No. Beh, se l'ha ucciso è la sentenza. Oh, a proposito del magistrato, caro Parenzo, a proposito del magistrato che ha condannato Mattielli, in realtà sono diversi i magistrati che hanno condannato Mattielli. L'ultimo lo ha condannato a, credo, 5 anni giù di lì, no? Prima della sua morte, a 135.000 euro. Un signore della Lega che si chiama Prandelli, un dirigente locale, adesso non mi ricordo nemmeno di dove, anche insomma del Veneto, questo signore che si chiama Prandelli, stai attento, ha ritwittato, anzi no, come si dice, ha preso condiviso una foto da Facebook in cui c'è la foto di un magistrato che si chiama Bertotti, il quale magistrato Bertotti, secondo lui, secondo Prandelli, avrebbe condannato Mattielli, e dunque bisogna sputare sulla foto di questo magistrato. Questo dice, no? Questo dice questo dirigente della Lega. Io proverei a fargli una piccola telefonatina, sì. Che dici? Pronto? Prandelli? Sì? Ciao, sono Cruciani. Ah, ciao. Ciao, che bisogna fare allora con questo giudice? Cos'è che hai scritto questa Cristina Bertotti? Secondo me ha applicato una legge sbagliata. Sì, no, ma che bisogna fare concretamente, al di là della legge sbagliata? Tu hai scritto una cosa, fate girare in tutta Italia che cosa? La foto. La foto? La faccia, sì, di questo magistrato, perché secondo me ha dato una sua interpretazione della legge sbagliata. Sì. Provocando poi tutto quello che è successo. Cioè è stata la causa della morte di Mattielli? No, non dico che è stata la causa della morte, però certamente è che Mattielli... Scusa, però adesso non fare il buono però con noi, perché non è il caso. No, tu hai scritto una cosa, questa buono. È Cristina Bertotto, il giudice che ha condannato Hermes Mattielli alla galera e a risarcire i rom rimasti feriti mentre lo derubavano, ok? Sì, lo so, ma non l'ho scritta io. Quella e chi l'ha scritta? Semplicemente ho pubblicato. Fate girare, tutta Italia deve poter sapere su quale faccia sputare per la morte di Hermes. Dunque, secondo te bisogna sputare in faccia su questo magistrato? Beh, guarda, quando arrivano comunque delle situazioni come questa, non bisogna, sì, anche essere troppo carini, sinceramente. Cioè, tu li sputeresti in faccia? Le sputeresti in faccia? Ma magari se l'avessi davanti, magari prima ci parlo anche insieme. Se subisse un furto in casa, non saresti così scontento, no? Ma vale, io il male a nessuno non lo auguro, no, non l'ho mai fatto. No, però non lo auguro assolutamente, però appunto magari lo aiuterebbe anche un attimo a capire, mettersi nei panni di certa gente. Cioè, se subisse un furto in casa, capirebbe. Questo non lo sto augurando assolutamente. No, per carità. Però qualora capitasse, lei potrebbe capire. No, sì, esatto, sto dicendo quello. Sì, no, beh, esatto, un cazzo comunque. Avrebbe un attimo più. Scusi, ma adesso non succederà niente, ma lei non ha, come dire, il timore che diffondendo la foto di questo giudice si scateni una specie di caccia all'uomo, anzi in questo caso di caccia alla donna, o no? Beh, ma scusi, io ho semplicemente condiviso una foto che ho trovato anch'io, ripeto che ancora non l'ho fatta. Ancora? Lei li ha letti i commenti dentro questa foto? Certo, sono sulla mia pagina. Amico mio. Certo. Ma li ha letto? Non li ho letti tutti, sono tantissimi, non è che sto lì tutto il giorno a leggere i commenti e non commenti. Ma hai intenzione di toglierlo adesso quel post? Ma il posto non lo tolgo, ma perché devo toglierlo, scusate. Ti auguro di cuore che questi criminali svaliggino casa tua e dei tuoi familiari, omaggiandoti come fanno sempre, no, con una serie di bastonate. Assolutamente. Puttana, troia di merda, marcia schifosa, altri. Altre cose che non condivido. Che faccia di cazzo, eccetera, eccetera. Anche io se l'avessi condiviso. Amico mio, però è tutto frutto del fatto che tu hai pubblicato quella foto. Io non la toccherei mai, assolutamente. Non mi, ma perché sputare mai in faccia, ma non è toccarla. Cos'è? Perché sputare non che? Non permetterei mai di picchiarla, niente. Però sputare sì, picchiare no. Sputare sì, picchiare no. Vabbè, hai pensato di sputare in faccia a questa signora. Vabbè, contento te, ciao. Sai che cos'è che mi fa veramente rodere il culo in questi casi? Perché uno può avere anche, no, può essere anche un estremista, uno che gli gira le palle, che ha un moto di no, però poi non è che ti... No, no, non l'ho con... non ho fatto io, ma è la stessa cosa. Sono i social network, vecchio, cioè, che se tu difendi. Condividi una foto sui sono social network. Sono i leoni network. Dei social network, questi sì, si chiamano. Ma se tu condividi una cosa sul social network, la fai tua, diventa automaticamente tua, in particolare quando hai un incarico. Ma sai cosa ho scoperto ancora? Ho scoperto un'altra cosa ancora, che questo deficiente, perché alla fine questo Prandelli è un deficiente, secondo me, non ha sbagliato Cesare anche i giudici. No, no, Cesare Prandelli, no, per carità. No, si chiama Prandelli, aspetta, Prandelli della Lega, che ci capiamo. Un Prandelli della Lega, sì, certo, della no, Lega. No, certo. Un Prandelli della Lega. Allora, questo tizio qua, no, questo tizio qua ha anche sbagliato giudice. Ha sbagliato giudice perché questo qua non l'ha condannato a 5 anni per omicidio volontario. No, ma tu non la sapevi questa cosa qua? No, non lo sapevo. L'ha sbagliato perché questo qua è il giudice del primo grado. Un fessacchio. Non c'entra niente alla fine con la condanna definitiva. È il giudice del primo grado che peraltro l'aveva condannato. Aveva condannato Mattielli. Io sono grande tifoso di Mattielli, lo sono stato. Secondo me sono sentenze sbagliatissime. Però ragazzi, questo no, se tu metti la foto, almeno metti quella giusta, metti la foto dell'ultimo giudice che l'ha condannato al risarcimento. Questa qua è un giudice che l'ha condannato in primo grado a, credo, 4 mesi, 5 mesi per omicidio colposo, una cosa di e non per omicidio volontario, per tentato omicidio. Io lo richiamerei, lo sai, questo qua? Per fargli. Cioè, lo richiamerei. Non per fargli... risponderà. No, ma lo richiamo perché glielo devo dire. L'ho scoperto adesso, glielo devo dire. Pronto? Prandelli? Sì? Sono Cruciani, ciao. Ciao, ciao. Ciao. Senti, ma... non è Cesare Prandelli? No, è Prandelli, no, no, no. È Prandelli quello della Lega. Ah, senti, quello della c'è Lega. Un aggiornamento, amico mio. Sì. Abbiamo saputo che il giudice con cui ve la siete presa per Mattielli sì. è quello sbagliato. Appunto. Cioè, ecco. Informatevi meglio prima tra di dire... quello che l'ha condannato nel primo grado ad un anno. Cioè, l'ha condannato in primo grado a meno di un anno per omicidio colposo. Certo. Per cui che c'entra questa? Quella che ha dato il via un po' a tutto. Ah, quella che ha dato il via a tutto, certo, dici tu, quella che ha dato sì, il via che ha dato la stura. Ti tengo a precisare ancora una volta. Ari dai, quello che è scritto è scritto. Non l'ho fatta io, quello che è scritto è scritto. Non è Prandelli, quello che è scritto è scritto. Quello che c'è scritto però non l'ho fatta io. Non ma è uguale, l'hai condivisa, non solo l'hai condivisa, hai detto anche, scusami amico mio, no. Se tu condividi una frase di Hitler. Dovreste chiamare 100.000 persone. No, ma non fare. Ma l'avete condivisa. Facciamo più semplice. Se io dicessi, ma non lo dico, che Prandelli è un coglione, sì. E qualcuno, se lo dicessi, ma non lo voglio dire, e qualcuno condividesse questa roba, e beh, che cosa vorrebbe dire? Che Prandelli è un coglione per chi ha condiviso, ma io non voglio che sia così. Ma io sinceramente andrei a prenderlo quello che l'ha detto. No, l'hai condiviso, non solo l'hai condiviso, hai detto basta, anche di diffonderlo, hai detto anche di diffonderlo, hai scritto anche di diffonderlo. Quello che l'ha detto, di quello che... Senti, non tirarti indietro, hai detto che questa cosa no, va diffusa. Non indietro. Ti dirò, e forse è più grave diffonderla che averla creata. Ma cioè, non è che uno la pubblica... parolacce o cose del genere. Ma stai dicendo semplicemente che gli avresti sputato in faccia, punto. Tranquilli che sono più incazzato con quella che l'ha condannato dopo, visto che ha aumentato la pena. E comunque hai preso il giudice sbagliato, la foto l'hai messa sul circuito di Facebook, cioè sul web, e hai sostanzialmente detto, e hai detto, l'hai presa e l'hai diffusa ancora di più dicendo di diffonderla, e hai detto che sputeresti in faccia a questa qua, punto, molto semplice. Ho detto che se la vedessi... Sì, se la vedessi potrei sputare, sì, d'accordo, vabbè, insomma, tutte le cose che poi uno fa quando fa le cose... No, cioè perché semplicemente dopo... Se la dovessi incontrare parlando eccetera potrei cambiare idea. Hai preso la foto che volevi, la frase che volevi, la frase che condividi e l'hai diffusa perché tu pensi esattamente quella cosa. È sì. Normale perché altrimenti o sei matto o è così. Su quella foto cos'è che c'è scritto? Che sputare in faccia, che devono sputare. Gli italiani sanno, sì? Sanno quale volto sputare. Benissimo. E che vuol dire? Ma che vuol dire, scusa? Se lo vogliono fare. Arrivederci. Ecco. Ciao, ciao. Arrivederci. Vabbè ragazzi, questo è assurdo. Poi la gente che non ha i coglioni, non ha i coglioni per tenere il punto su quello che scrive, cioè si cagano subito sotto, dai. Addio, Stefan, va. Provincia di Parma, no, fermo, addio. C'è tempo. Stefan, provincia di Parma, sta zitto, va. So che devi andare via dalla conciliazione, via. Aspetta, c'è tempo. No, non dare meglio sempre dove arrivare sono. In ritardo, sempre no, meglio arrivare sicuro, in ritardo. Ma devo andare ancora a prendere la macchina. Comunque addio a tutti. Stefan, aspetta, provincia di Parma, ancora voglio sentire qualcuno. Vai. Buonasera. Stefan. Sono qua. Ah, poi stasera andiamo finale 10, io non lo sapevi. Stefan, provincia di Parma, dai. Sì, buonasera, pronto? Dimmi. Niente, io sono albanese sul camion. Sì, camionista volevo albanese, dire. Ottimo, dimmi. volevo dire che in Albania c'è il canone. C'è il canone? Diciamo il canone albanese, diciamo la legge. Il codice penale. Ah, ecco, il canone. Sì, ho capito. Che presume che il rapinatore ha ammazzato durante una rapina. Sì. È perso, non si può vendicare, non può chiedere danni. Sì. E quindi, cioè, tu dici nel codice albanese la cosa. Mo questa ce l'aveva detto anche Sicignano l'altra volta. Cioè, nel codice albanese, se tu crepi durante una rapina, chi se ne frega? Esatto. Giusto? Poi, Stefano, tu come vedi questi tuoi connazionali che vengono a fare le rapine? Cosa faresti tu? Come sbrigheresti la questione? Cioè, come la risolveresti, caro Stefano? La questione è politica qui, non è. Come la risolveresti la questione? Tu sei privatamente? La legge del sei per la legge del taglione tu, Stefano? Cioè per, No. Io ho fatto la sicurezza per tanti anni. Sì. Mi fa ridere Lamberetta lì e quell'altro marchigiano che parlavano. Loro avranno avuto Topo Gigio come ladro in casa. Vabbè, evidentemente non è. Gli albanesi sono feroci. Chi fa una rapina non lo fa per caso. Sono preparati e armati. Lo so. Questi quindi, qua saranno stati non armati. No, lo so, non mi interessa. Stefano, tu dove lo fai l'autotrasportatore? Dove vai in giro? Arimi. Ah, in tutta Italia. In tutta Italia, autotrasportatore albanese. Amico mio, ti chiamerò domani e mi racconti un po' tutta la tua storia. Perché adesso devo sentire un attimo, nessuno, perché dobbiamo chiudere. No, aspetta, Alessandro, dalla provincia di Roma, veloce, dai. Alessandro, vai. Alessandro. Alessandro. Dimmi, Alessandro. Ti voglio bene. A chi? Ma, quel signore che sta vicino a te, Parenzi? Parenzo. Vorrei fargli una domanda solo. Anzi, fai una domanda, rapida, dai. A, B o C? Vai. Se è sposato. Sì. No. Se si trova che stanno violentando sua moglie, la stanno riempendo di botti. Reagisce a dovere. Aspetta, fammi. Se fa una sega. B, chiama i carabinieri. C, prende il coltello e gli dà la coltellata. Te mando a fare il culo, amico mio. A domani 18:30. Massimo Carminati, segnalo. Capito? Segnatelo. Se mi venite a fare l'impianto, bene, se no non me ne frega un cazzo di niente, capito? Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8. Lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Siamo ad alti livelli qua, Radio 24. La passione si sente.